Qualcosa sui patrimoni, leggerei. Ecco, posso cominciare io? Anche sugli attuali patrimoni. Posso cominciare dopo, cioè, no, io volevo chiedere un paio di cose a Placanica. Tanto per capire bene, insomma. In quel patrimonio della cassa di 57.000 ettari, insomma, no? Sì, circa. Sì. E quindi i beni delle parrocchie erano fuori, delle parrocchie viventi, no, funzionanti, ci sono, erano fuori? Per larga parte ci sono dentro, perché le ho raccolte da altre fonti, ci stanno dentro. Io ho notato, sulla base di alcuni campioni, che le parrocchie erano indubbiamente la parte più debole della struttura patrimoniale della Chiesa. Tutt'al più la parrocchia poteva essere detentrice di alcuni immobili, però piccoli sempre, molto piccoli, ed era normalmente detentrice di censi attivi, che potevano essere o censi perpetui o censi bollari, una distinzione di grande importanza questa. Però erano la parte più debole, cioè erano gli enti più poveri, indubbiamente. Da questo computo mancano le parrocchie di alcune diocesi piccole, ma ci sono anche quindi. Però sia chiaro che le parrocchie furono tenute fuori dal regime di esproprio, solo le parrocchie vacanti furono sottoposte ad esproprio, ma le parrocchie regolarmente occupate dal titolare non furono sottoposte ad esproprio. Qui dentro ci stanno quindi e le parrocchie e le chiese non parrocchiali, che furono tutte sottoposte ad esproprio. Ecco, in definitiva, di questi 57.000 ettari, grosso modo, si ritiene che fossero stati venduti tutti in tutto il periodo, diciamo dal 1784, quando sono cominciate le vendite, fino alla fine del periodo, cioè alla fine del periodo napoleonico, insomma, di questi 57.000 ettari conferiti in qualche modo alla cassa sacra, esisteva ancora qualche invenduto, o meglio qualche patrimonio della cassa, oppure era stato liquidato? Dunque, la cassa riuscì a vendere circa un quarto, il 22,53 sul disponibile. Può mancarmi qualche fondo, anche 100 fondi, anche 200 fondi non spostano di molto. Invece del 22% sarà il 25%, ma non sposta di molto. E quindi il 75% rimase invenduto, fu restituito agli enti ecclesiastici. Ah, fu restituito? Fu restituito. E nel 96, non appena fu abolita la Cassa Sacra, e fu abolita con atto molto coraggioso, per il fallimento dei fini della Cassa Sacra. Nell'atto, nel dispaccio abolitivo della Cassa Sacra, si dice che veniva abolita perché non aveva dato i frutti che si speravano. Noi oggi la guardiamo con il senno del posto, diciamo che qualche elemento fu introdotto. Allora si ritenne che, non avendo potuto realizzare quei fini, veniva abolita e veniva fatto carico a un visitatore generale, che era il marchese di Fuscaldo, di riorganizzare però le strutture ecclesiastiche. Da allora, data il tentativo di diminuire notevolmente il numero delle parrocchie della Calabria, però il 75% dei fondi in estensione fu restituito agli enti ecclesiastici. Naturalmente gli enti ecclesiastici poi cominciarono a subire altri i successivi contraccolpi, si ebbero nel periodo napoleonico e poi si hanno con le leggi emersive dell'asse ecclesiastico, per cui l'emorragia è sistematica e continua. E altri beni della Chiesa erano stati però già eversi lungo il Settecento con le leggi soppressive dei conventini, di piccoli ordini e così via. E quindi noi diciamo la Cassa Sacra aliena un 25%, un quarto, in estensione. Questo però dovrebbe portarci a una riflessione. In definitiva, da quello che ho potuto indurre, furono certamente venduti i fondi più ampi e furono certamente venduti i fondi migliori. Perché ponendo a base l'importo dei fondi vendibili Guardando i fondi effettivamente venduti, si vede che in media i fondi venduti erano i più pregiati. Questo richiama al discorso che facevi tu. Cioè, in definitiva, rimase nelle mani della Chiesa quella porzione che era meno suscettibile, cioè che in quel momento era meno valida. Furono vendute soprattutto le grandi estensioni a grano della pianura e quelle zone che fossero suscettibili di coltivazione a oliveto. L'incolto e così via rimase in mano alla Chiesa per la gestione vecchia. E questo potrebbe dare il destro ad altre osservazioni proprio su questo argomento. Questo per risponderti circa il venduto. Le tombolate vendute furono il 22,53 sul disponibile, ma vedi, già il valore in ducati dice che era un terzo sul disponibile, un 33,25 sul disponibile. Io mi fondo sempre sui prezzi di stima generali e sui prezzi di stima del venduto, in modo che le due grandezze siano omogenee. Una domanda sulla... Sì, che cosa vuol dire incrementi di tombolate? Sì, questo era più a uso interno che non a uso degli amici che leggono. In media un fondo venduto ebbe un incremento di più 0,73, cioè se i fondi erano in media grandi una tombolata, i fondi venduti erano di 1,73, cioè erano venduti i fondi più grandi. È vero, un fondo medio venduto era più grande di 0,73 nel confronto di un fondo vendibile. E in ducati, se un fondo medio valeva 100 ducati, un fondo medio venduto valeva 119,18. Cioè 147,58. Sì. Cioè una volta e mezzo come entità. Come entità di valore. Volete che vedi che qualche altra cosa su questo? Sì, no, io volevo appunto lasciare un po' di... No, ma le domande erano molto esterne. Cioè, all'interno delle grandi divisioni tra clero regolare e clero secolare, e all'interno del clero secolare, le proprietà dei capitoli, delle cattedrali, eccetera, che tipo di proporzioni c'erano all'inizio del fenomeno? Insomma, questo vale un po' per tutte e tre le relazioni, insomma, ecco, in qualche modo. Si riesce a stabilire gli ordini religiosi, che tipo di presenza appunto avessero nella proprietà fondiaria rispetto alla proprietà invece del clero secolare, all'interno del clero secolare in particolare. Quanto poteva essere di proprietà delle parrocchie, cioè del beneficio di tipo classico, insomma, legato alla parrocchia, quanto invece proprietà dei capitoli delle cattedrali, dei grandi collegiate, insomma, cioè che avessero più le caratteristiche, insomma, della grossa impresa, in un caso così, perché credo che ci sia una differenza fondamentale, credo anche nella gestione precedente, tra la gestione del beneficio parrocchiale legato alla figura del prete che vive in quel villaggio e che ha quei 3-4 fondi, e invece il capitolo della cattedrale o della collegiata che possiede un patrimonio molte volte anche lontano, diverso, che gestisce già attraverso amministratori, e quindi per cui esiste già una rete di intermediari che probabilmente sono poi i proprietari successivi, insomma, cioè sono quelli che si fanno avanti negli acquisti più. Non so se questa è una domanda che investe un po' tutte le aree ed è molto, una domanda molto esterna. Ecco. Vuoi che ti risponda io? Diciamo, perché questo richiede un discorso diverso da quello che io ho fatto. Io ho detto che c'erano due discorsi da fare. Uno dopo l'84, ed è quello che concerne le vendite, è quello l'unico di cui mi si è interessato stamattina. E l'altro è il possesso della Chiesa avanti l'84, e di cui non mi sono interessato per niente stamattina. Sul campo specifico dei capitoli io non ti potrei dire molto, perché i capitoli in cattedrale non furono assoggettati al regime di sequestro, quindi io non ho... Ecco, oltre però che anche i capitoli... Ecco, i capitoli, le collegiate non furono... Non furono assoggettate al regime di sequestro, per cui io non ho i dati su questi, cioè non li ho globalmente, le posso avere per qualche campione semplicemente attraverso altre fonti. La graduatoria è questa, le parrocchie sono in genere gli elementi più deboli della catena del patrimonio ecclesiastico, sono l'anello più debole, hanno minimi, hanno dei piccoli fondi, hanno parecchie censi perpetue e parecchie censi bollari. I capitoli cattedrali, le collegiate e così via, hanno invece più possessi, ma non delle dimensioni dei grossi enti regolari però. Anzitutto perché non erano molto spesso le collegiate in sé che avevano, oppure i capitoli cattedrali che avevano in sé per sé come ente collettivo, ma per esempio il tesoriere, il decano. Allora i fondi erano del tesorerato, del decanato. Alle singole cariche all'interno del capitolo. Sì. Erano cioè le cariche non ventose, diciamo così, quelle le cariche con effettivo controllo di rendite e di immobili. Nella scala, nella graduatoria del possesso, quindi stiamo parlando ormai al di qua dell'84, al di qua della soppressione, gli enti indubbiamente più ricchi sono anzitutto alcune grosse concentrazioni feudali di Calabria. Sono la Certosa di Serra San Bruno, la Certosa di Santo Stefano del Bosco, una delle più grosse concentrazioni feudali ecclesiastiche del Mezzogiorno, e il convento di San Domenico di Soriano, che io ho studiato a parte, ma che non furono soggettate a sequestro, benché qui dentro ci siano. E a parte questi due grossi enti, maschili, e quindi consideriamoli eccezionali, gli enti più ricchi e a livello di immobili in modo particolare, ma anche a livello di rendite, sono i monasteri femminili, soprattutto di donne nobili o di donne monache, come venivano chiamate, cioè delle clarisse o di alcune benedettine e così via. Questi sono indubbiamente gli enti ecclesiastici più ricchi e sono veramente doviziosi. E all'interno di queste strutture patrimoniali andrebbe sempre fatta una distinzione tra quelli che erano i beni dotali delle monache, i beni extradotali delle monache e i beni collettivi del convento. Quindi i monasteri femminili sono indubbiamente i più ricchi, o almeno i sono ricchi di alcuni tipi particolari di proprietà, cioè hanno le proprietà più grandi, più estese, e che quindi in valore qua sempre, o nelle zone a cultura intensiva, quelle più produttive, altamente produttive, i collegi, i conventi, i monasteri femminili sono quelli che hanno il patrimonio più ampio. Poi vengono i patrimoni di alcuni ordini, per esempio i domenicani, teresiani, teatini, che sono oppure dei conventuali, che sono abbastanza ricchi. E poi scendendo vengono i riformati, paolotti o paolini o minimi, osservanti e infine cappuccini, i quali, benché all'estremo della scala, hanno anch'essi delle proprietà. Il prestigio massimo economico spetta indubbiamente ai monasteri femminili, però, quali raccolgono moltissimi elementi delle famiglie migliori del capoluogo. In genere i monasteri femminili sono dislocati nei centri più importanti della Calabria interiore e hanno un possesso che non necessariamente è nella stessa zona. Molto spesso hanno possessi in zone lontanissime dalla Calabria, sempre di grande entità. E aggiungerei pure che questi monasteri femminili talvolta, anzitutto sono ricchissimi di censi bollari, che sono il corrispettivo di concessione di capitale, e poi sono detentori di molte partite di arrendamento, cioè dei prestiti fatti allo Stato a Napoli, e quindi anche da questo traggono cospicui redditi ogni anno, insomma redditi annui molto elevati. E quello che per me di grande interesse, almeno per quanto riguarda la Calabria e per quanto concerne la struttura patrimoniale al di qua dell'84, è l'enorme presenza dei censi perpetui e dei censi bollari. Il che secondo me dimostra che attraverso i censi perpetui che già da tempo si era avviato un processo di sfaldamento della proprietà ecclesiastica. Questo secondo me è un dato che bisogna acquisire e che giustifica poi la esiguità la relativa esiguità del possesso ecclesiastico rispetto a quanto se ne dice interessatamente da parte dei riformatori. Cioè era andato avanti un processo di sfaldamento della proprietà ecclesiastica attraverso la concessione al censo di terre della Chiesa. Per esempio il convento di San Domenico in Soriano, forse la più grande concentrazione feudale ecclesiastica della Calabria, e che fu comprato dai monaci domenicani di Soriano, dai Carafa che erano indebitati nel 600, e i domenicani riuscirono a pagarlo, cosa strana, in 10 anni, ed era una cifra pare intorno ai 150.000 ducati. Però come riuscirono a vivere questi grossi enti ecclesiastici? Attraverso una concessione a censo sistematica delle loro terre. Non li vendevano, non vendevano questi loro fondi, però li concedevano a censo. Questo pone in gioco allora tutto un discorso molto ampio sulla presenza, come tu dicevi, ma questo sarebbe oggetto davvero di una trattazione complicatissima, sulla presenza, sul ruolo, sulla funzione della Chiesa all'interno dell'economia settecentesca. Ecco, intanto diciamo questo, che le grosse concentrazioni, ma anche le piccole, si sgravano di molti immobili, concedendo l'accesso perfetto. E poi utilizzano i loro capitali, dando delle grosse anticipazioni, concedendo questi capitali non a prestito, perché il prestito non è consentito, ma attraverso la forma della soggiogazione o anno entrato, o vitalizio, o censo bollare. Il censo bollare che prevede la consegna di un capitale alla persona che vuole il prestito, ma non prevede la restituzione del capitale, prevede una restituzione perpetua fissata a un tanto per cento annuo. Se non che questo problema coinvolge anche l'altro, soprattutto nel secondo Settecento, della inflazione sensibilissima, con una decurtazione reale di quel censo nominale, quindi questo porta a un impoverimento della Chiesa. Cioè, da tutte le riflessioni mie, che qui non posso dettagliare, che sarebbe complicatissimo, io sono arrivato alla conclusione, avanti l'84, che la Chiesa fosse veramente alla mercé dei borghesi. Fosse veramente alla mercé dei borghesi, perché già aveva dato molto delle sue proprietà, molto della sua proprietà ormai era obiettivamente in mano ai borghesi, anche nella forma giuridica, gliel'aveva data a censo ormai. In secondo luogo, molti suoi capitali erano andati in mano alla borghesia, e che li restituiva ormai rinviliti però. In terzo luogo, non bisogna dimenticare che i grossi enti ecclesiastici fittavano a grossi rappresentanti della borghesia locale. Quindi c'era all'interno, io con una frase mutuata da Tacito, io dico che la Chiesa era ammalata della sua stessa grandezza, come l'impero romano, no? Ammalata di questa stessa grandezza, alimentava dentro di sé quei tessuti sociali che erano destinati ad impadronirsi. Nello stesso tempo però la Chiesa non è che mancasse a una funzione sociale. La Chiesa concedeva a censo minimo o dava in affitto a condizioni ottimali anche piccole particelle. Se noi guardiamo il numero dei censi perpetui, ma qui poi ho l'impressione di scocciare. No, va. E se noi guardiamo il numero dei censi perpetui, io ho potuto stabilire che almeno una famiglia su due, cioè una proporzione enorme, aveva dei rapporti economici con la Chiesa, ma non rapporti, a parte gli affitti, che possono essere rapporti di tutta tranquillità, ma proprio rapporti di censo, cioè la Chiesa si era spogliata o di una porzione di terre, o di una porzione di capitali, e li teneva a censo nei confronti del mondo esterno, rappresentato da chi? Rappresentato da grossi borghesi, i quali quindi detenevano a condizioni sempre migliori, comunque sempre ottimali, perché si trattava di parenti, in definitiva, parenti delle abbadesse e così via, terreni della Chiesa. Concedeva in fitto a buone condizioni queste stesse porzioni a favore dei grossi borghesi. Nei confronti dei piccoli, poi, dei piccoli contadini, la Chiesa aveva in corso una rete infinita di rapporti i quali erano tutti fondati su un obiettivo di assistenza sociale nei confronti dei piccoli, no? Però c'è un dato di fatto, che le partite litigiose oppure i morosi nei pagamenti sono un'infinità nei piccoli. Il che significa che la Chiesa, nei confronti dei piccoli coltivatori, svolgeva una oggettiva funzione di sostegno dei loro redditi complessivi. Cioè il piccolo proprietario, il piccolo contadino, il bracciante, riusciva attraverso la piccolissima terra presa a censo dalla Chiesa, attraverso il piccolo affitto e così via, riusciva a integrare il proprio meschino bilancio, il proprio meschino bilancio. Anche perché la Chiesa non perseguiva una politica di fiscale amministrazione dei propri beni, né poteva perseguire, è vero, giudizialmente chi venisse meno, purché questo tale dimostrasse di essere povero. La Chiesa stessa in quel momento medesimo non poteva perseguirlo, appunto perché quel tale era povero e non poteva pagare. E quindi si invocava appunto la povertà del debitore come elemento essenziale per non dover pagare. Quindi la Chiesa era alla mercé dei grandi ed era anche alla mercé dei piccoli. Dopo l'84, all'amministrazione della Chiesa subentra l'amministrazione laica. Il subentro dell'amministrazione laica determina una amministrazione dei beni della Chiesa enormemente, infinitamente più fiscale, infinitamente mercantile. Chi compra il bene della Chiesa non può preoccuparsi del fatto che il colono non paghi la sua porzione o non paghi l'affitto, è vero, perché deve immediatamente, il nuovo compratore deve ripagarsi della spesa fatta per acquistare. Questo determina immediatamente, a mio parere, uno squilibrio nelle campagne meridionali. Le campagne meridionali erano caratterizzate da una forma indubbia di sottosviluppo, All'interno di questo sottosviluppo esisteva però una forma di equilibrio, di pace, anche a basso livello, nelle campagne, appunto dovuta al fatto che la Chiesa garantiva attraverso questa rete di rapporti molto bonari, garantiva la sopravvivenza di questi braccianti. Non appena la Chiesa subisce il primo colpo, e alla Chiesa, all'amministrazione ecclesiastica, era oltretutto pure disordinata, talché molto spesso era impossibile agli amministratori tenere conto esatto delle partite. Non appena subentra la nuova amministrazione laica, non appena subentra il nuovo proprietario, subentrano questi 2.876 compratori, questi non possono andare così per il sottile nei confronti dei piccoli infittuari, dei piccoli coloni e così via. E allora quell'equilibrio riceve già un primo colpo. E quel colpo negativo subito nella fascia bassa della società rurale calabrese è un colpo in positivo a favore invece della fascia medio-alta, che subentra alla Chiesa, non introducendo innovazioni tecnologiche, non irrorando le terre con capitale, no, ma inserendosi al posto della Chiesa, sostituendosi ad essa e ora pretendendo dai contadini il versamento delle quote, dei canoni, degli stalli, degli affitti, in modo moderno, diciamo noi, in modo però molto più coerente, quindi in un modo che in prospettiva appare più moderno, è la sostituzione del laico alla Chiesa, è la sostituzione di un possesso non più precario ma razionale nella gestione dell'amministrazione, ma questo non ha come corrispettivo l'immissione di capitale nella gestione da parte dei laici, cioè si risolve esclusivamente con una depressione dei contadini, i quali però, benché depressi, rimangono i protagonisti dell'economia agraria calabrese. Non diviene protagonista il capitale, nonostante questa espropriazione nei confronti della Chiesa, nonostante questa espropriazione nei riguardi dei contadini, in definitiva, nessun colono diventa proprietario. Ciononostante non è che si introducano elementi di capitalismo, elementi di modernità. L'unico ammodernamento, l'unica forma di razionalizzazione viene rappresentata dal fatto che alla Chiesa subentra un laico e un laico pretende con fiscalità la riscossione. Non credo che ci siano altri cospicui elementi di modernità in questa trasformazione. il discorso sarebbe complicato e si ricollegherebbe al discorso alla... molto interessante sentire le reazioni sulle altre aree di adesso forse degli interventi qui sulla monetaria volevo chiedere sopra la famiglia una questione di dolore se nelle sue pubblicazioni che non conosco purtroppo quindi e esiste la possibilità di individuare che le innovazioni precedenti non è un risultato trasparente probabilmente per disattenzione, per non capacità sufficiente di il rapporto fra la formazione, gestione, funzione economica dei beni ecclesiastici complessivi e in particolare quelli che poi verranno soppressi e quindi il rapporto fra questa prima entità e le modalità d'esproprio, le modalità di vendita, le modalità di capitalizzazione e utilizzazione economica complessiva. Cioè, se dal punto di vista metodologico è utile, vabbè, no, se è necessario, tenere presente la formazione e gestione e funzioni economiche di beni ecclesiastici, e io penso a Trentino in particolare. Quindi è un'estrapolazione, quindi è una domanda che le pongo per capire chi nel Trentino che è successo. Se è necessario tenere in considerazione per studiare le soppressioni di questi beni e l'utilizzazione quindi successiva di questi beni in rapporto alla loro formazione. E so che uno può rispondermi sì, ma in che contesto oppure con che modalità possono essere studiate la formazione, gestione e funzione economica dei beni ecclesiastici. E dopo volevo chiedere, mi scusi, anche al professor Costa, sì, la metodologia, per esempio, del Trentino, le soppressioni avvengono da quelle giuseppettiniane, no? Cioè un susseguirsi delle soppressioni giuseppettiniane, poi quelle del regno bavaro, quelle del regno d'Italia, nell'arco dal 1784 circa fino al 1816 e si susseguono fino alla fine consolidarsi con gli incanti ed aste di questi beni verso il 1848, ho visto l'ultima asta che ho visto io. Quindi cambia probabilmente modalità, caratteristiche e riutilizzi e su un'area così piccola come il Trentino non vale la pena. Ma che senso ha dover utilizzare più metodologie e più probabilmente una strumentazione estremamente delicata a un verso e inconcludente per i grossi numeri dall'altro? Mi scusi se... Ripeto, il primo era... La formazione. Ecco, se necessario, no, sì. Quanto è utile per lo studio dei beni soppressi conoscere, e non so fin dove, non dalle origini che si perdono, ma per un certo periodo, e come lei ha utilizzato per quanto riguarda la Calabria, il periodo antecedente di formazione, gestione e funzione economica complessiva dei beni della Chiesa e il sottoinsieme dei beni che poi saranno liberalizzati sul mercato. Questo era in particolare, io dopo vado a leggere, dopo la risposta che lei mi dà, vado a leggere le sue opere che non conosco in questo momento, quindi mi dispiace. Vedete solo se è rintracciabile una traccia logica di metodologia all'interno del suo lavoro. Io credo che lei mi faccia una domanda proprio per utilità, quindi io le rispondo per questo. Per quanto riguarda la formazione e così via, un mio volume che ha il titolo Il patrimonio ecclesiastico calabrese nell'età moderna è piuttosto una raccolta di studi sull'argomento. Non si trova, non lo so. E non ci va! Gli editori sono microscopici e non mi dicono niente. Oh, il prossimo studio allora lo condurrò con questi criteri. Una prima parte io la dedicherò, dato che lei mi chiede come si fa, insomma, tutto sommato, per vedere queste cose. Una prima parte io la dedicherò a uno sguardo sincronico a tutta la possibile proprietà ecclesiastica, quella che io qua riporto in quattro righe, no? a tutta la possibile accertabile proprietà ecclesiastica di Calabria ad un determinato anno. E io, quasi in un flashback, prendo esclusivamente il 1790-91, perché è un momento in cui tutta la proprietà ecclesiastica viene esaminata con analoghi criteri, che è l'elemento che manca sempre, ma io sono fortunato perché la Calabria in quel momento viene censita a tappeto, e quindi ci dà al 90-91 un grande numero circa l'entità della proprietà ecclesiastica e le sue caratteristiche interne, e a livello di beni immobili, fondi rustici e case, e a livello di rendite, colonie parziali, quindi canoni, censi, fitti e così via. Una seconda parte invece di questo stesso volume io vorrei dedicarla alla storia economica di tre o quattro enti ecclesiastici di un certo livello. Si tratta allora, si è trattato, perché l'ho già fatto ma non ho scritto il libro, non so se andrò a finirlo, si tratta, per me si è trattato di fare che cosa? Di prendere in esame di alcuni conventi, per esempio il monastero di Santa Caterina da Siena da Catanzaro, il monastero di Santa Chiara di Catanzaro, i gesuiti di Catanzaro, più il convento di San Domenico di Soriano, per il momento ho fatto questo quattro. Io ho preso tutti gli atti notarili, sempre con approssimazione perché non sappiamo se poi siano gli unici che rimangono, può darsi che un loro notaio, il notaio delle Clarisse di Catanzaro, si sia perduto durante questi due o tre secoli. Si tratta di prendere tutti gli atti notarili, tutti i protocolli, le schede dei notai in cui presumibilmente esistono le transazioni effettuate tra convento e privati. Non solo, ma bisogna anche vedere le doti delle monache. Ecco, incominciamo ad arrivare alla formazione del patrimonio, le doti delle monache, i testamenti, quindi i lasciti, le donazioni mortis causa, oppure le donazioni tra vivi, oppure i legati per messe. E quindi già questo discorso della formazione, della stratificazione del patrimonio ecclesiastico è accertabile, questo elemento è accertabile. Non è accertabile sempre attraverso le carte ecclesiastiche, questo è il discorso, non è accertabile attraverso le carte ecclesiastiche, ma forse più facilmente attraverso le carte laiche, cioè attraverso gli atti dei notai, al limite anche attraverso qualche catasto, ma non sempre, perché gli enti ecclesiastici non sono soggetti a una particolare forma di accatastamento e comunque molto, molto spesso sfuggivano e così via. Per il Mezzogiorno fino al 41 e fino al concordato del 1741 sono esenti da qualunque tassazione, quindi sfuggono agevolmente a qualunque forma di accertamento. Non così per gli atti notarili. Quello che ci salva per l'età moderna è il fatto che il notaio era una persona, era un personaggio troppo importante nella società, e quindi attraverso il notaio passa tutto. Passano le ordinazioni sacerdotali, passano i testamenti, passano le donazioni, passa qualunque cosa. Si tratta allora di vedere anche nel testamento della persona più strana di questo mondo, vedere se lascia o non lascia un ducato, per esempio, a questo convento. E così si può, a poco, con grande pazienza e sempre a furia di mosaici, che è l'unica forma, secondo me, di studio che conosce la storia moderna, ricostruire dall'interno questa formazione del patrimonio ecclesiastico. Questo per quanto riguarda le entrate, ma giustamente Kovács esortava a studiare le uscite. Io avevo tentato di studiare, ma poi non me ne sono più occupato, di studiare un convento di Salerno, ma siccome poi sono stato attratto di nuovo dalla Calabria non l'ho più studiato. Ma sarebbe veramente di enorme importanza. Io allora l'ho affidato in eredità a un giovane collaboratore extrauniversitario, il quale sta studiando per esempio addirittura la storia dell'alimentazione attraverso i bilanci interni di un convento femminile. Si tratta di vedere, ecco, quanto di questo patrimonio venisse pietrificato, diventasse muri, diventasse campane, diventasse arredi, oppure dovesse soccorrere in che misura e come, e quindi con quale tasso di distinzione sociale, e per la sopravvivenza delle monache, come mangiassero le monache, se in definitiva queste doti delle monache venissero utilizzate a favore delle monache stesse per ingrandire il patrimonio, o se venissero invece cedute, come spesso accadeva, ai privati di nuovo per prestiti nella forma del censo bollare, mai del prestito ad interesse. Quindi si tratta non solo di guardare la formazione, quindi questo introito progressivo, questo accumulo, ma anche di vedere la destinazione di questo accumulo. A questo punto sorge il problema di chi fossero i destinatari di questo patrimonio ecclesiastico. Allora noi possiamo vedere che la Chiesa, i conventi, una parte lo gestivano in proprio, in economia, è vero, coltivando il proprio orto o fittando delle cose, oppure un'altra porzione potevano benissimo concedere al censo, e in quel momento stesso il bene immobile se ne andava, non restava più in mano alla Chiesa. Questo è il discorso molto serio che bisogna fare. Ecco, nel Settecento, per capire un po' il meccanismo che ha spinto Genovese, da Genovese a Giannone, a vedere in quella misura pessimistica il patrimonio ecclesiastico, che cos'è che lamentano i riformatori? Non è che lamentano soltanto l'enorme possesso della Chiesa, lamentano correlativamente il fatto che troppi fondi del Mezzogiorno fossero gravati da censi. Ma è la stessa cosa. E quando si dice che un fondo è gravato da censi, automaticamente si dice che quel fondo non era più della Chiesa, però. E questo è il discorso che era non solo non era di natura giuridica, è per noi di natura politica, di natura economica o sociale più generale. Quel fondo gravato da pesi era un fondo che ormai era sfuggito dal controllo della Chiesa. E quindi ecco, un'indagine che noi dobbiamo condurre è in che misura già la Chiesa, avanti il Settecento, avanti le leggi eversive, si fosse in effetti da sola, perché ammalata della propria grandezza, si fosse liberata di una certa parte più o meno cospicua di fondi. Questo per quanto riguarda la destinazione. Quindi per quanto riguarda la formazione e la destinazione di questi patrimoni, così alla bella e meglio ho detto qualche cosa. Poi lei chiedeva un'altra cosa, però a me a come. Sulla funzione o più o meno ho detto qualche cosa? Sì, riesco a capire sia sulla formazione, lo studio della gestione, amministrazione, sulla funzione complessiva. E una sola cosa vorrei aggiungere. Si inserivano prepotentemente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici i laici. Su questo non c'è. Quando nel 1784 Ferdinando IV emana la legge istitutiva della Cassa Sacra, abolisce tutti i procuratori degli enti ecclesiastici, virgolette, per essersi trovati quasi tutti infedeli. Ma questo rientra nel discorso che io ho fatto, cioè dello sfaldamento attraverso mille canali del patrimonio della Chiesa. Alcuni di questi canali fanno colore, come dico io, no? Cioè c'erano le usurpazioni vere e proprie, al prete veniva tolto una porzione di terra, al convento veniva sottratta dal barone che se la arraffava, se la metteva da parte. Sì, questo è un elemento molto visibile, ma c'erano i canali invisibili attraverso i quali la stessa Chiesa aveva rinunciato a gran parte del suo patrimonio. Non peraltro per sopravvivere, vorrei fare un solo esempio. Alla fine è la Chiesa che prende l'iniziativa di ribassare il tasso al 4% dei capitali che lei stessa concede. Logico, perché la Chiesa si trova con un peso di capitali inattivo dei quali non sa che fare. E allora evidentemente li deve dare, non li può dare a prestito perché il prestito ad usura non le è certamente consentito, li dà nella forma del censo bollare. E allora per attrarre acquirenti di capitali deve ribassare il censo. Alla fine del secolo noi abbiamo il censo al 4%, che significa che in breve tempo il censo viene svalutato, il capitale però la Chiesa lo ha dato in contanti e subito. La Chiesa tende ormai allo sfaldamento del suo stesso patrimonio. Cioè quando arriviamo all'84 la Chiesa era già alla mercé del potere borghese. Non dobbiamo credere che la Chiesa fosse veramente detentrice e quantitativamente e qualitativamente di tutta la sua proprietà. No, la sua proprietà era obiettivamente nelle mani degli altri. La Chiesa in proprio gestiva, sì, ma parzialmente, e sempre a patto che l'amministrazione sua stessa fosse sempre la più mediata e la più indiretta possibile. E questa era già una candidatura al suicidio economico tra 700 e 800, allorché si fanno avanti nuove forze sociali che mirano a impadronirsi dei beni immobili e anche all'affrancamento dei censi, dei canoni e così via. Scusa, rispondo io. Prima alla domanda circa la composizione, insomma, del patrimonio ecclesiastico in generale. Io non ho elementi precisi di valutazione intorno alla quota del patrimonio del clero regolare rispetto al patrimonio del clero secolare. Credo che sia una valutazione che si può fare, e si può fare sulla base dei dati del catasto teresiano, in parte probabilmente, considerando i beni esenti, il valore dei beni esenti, e tenendo conto che ad un certo punto, dopo con Giuseppe II in particolare, anche i beni del clero, non delle parrocchie, insomma, no? Quindi del clero regolare in genere, di altri enti religiosi, viene sottoposto a tassazione, quindi lo scutato, insomma, il capitale imponibile su cui mettere l'imposta fondiaria cresce, e per contro valutare i beni esenti e da lì cercare di capire un pochino questa ripartizione tra... La mia impressione però è che il clero regolare fosse il possessore maggiore dei beni fondiari in genere, insomma, rispetto al clero secolare. Forse si potrebbe azzardare una stima attorno al 70%, penso, 60-70%. Direi che la seconda cosa importante, questo riguarda le soppressioni, che le parrocchie come tali furono sempre fuori da ogni provvedimento eversivo, cioè i beni parrocchiali in quanto tali rimasero intatti, insomma, nelle mani della parrocchia. Quello che ne uscì distrutto quasi completamente era intanto il clero regolare, questo è stato completamente esautorato, insomma, spossessato, eccetera. E le abbazie, molte abbazie insigni, nei primi tempi le mense vescovili, nei primi tempi i beni dei seminari, cosa che invece dopo il 1804, mi pare il 1805 stesso, ristabilisce anche una dotazione delle mense vescovili, ristabilisce la dotazione dei seminari e ristabilisce oltretutto di alcune cattedrali insigni, penso a Sant'Ambrogio, penso a altre cattedrali importanti di tutto il Regno Italico, stabilisce una dotazione, insomma, in beni oppure in risorse ricavate dal bilancio dello Stato a favore di queste istituzioni. Restano sempre fuori dalle parrocchie, si continua invece ad insistere sull'ampliamento dell'area delle corporazioni religiose regolari che vengono praticamente soppresse, insomma. Direi che però mentre negli anni precedenti, fino grossomodo all'805, i provvedimenti di soppressione riguardano il convento, il monastero, quel tal convento con elenchi individualizzati, insomma, da questo punto di vista, direi che dopo il 1805, soprattutto col 1810, il discorso diventa generalizzato, si dice tutte le corporazioni religiose regolari sono soppresse, quelle che avevano quindi i possessi fondiari più cospicui erano state soppresse prima, ovviamente, perché la gente sapeva molto bene com'era la ripartizione della proprietà fondiaria. Dopodiché, quindi, restano tutte le corporazioni regolari o i conventi appartenenti ad un ordine che aveva già subito la soppressione e che però vengono generalizzati, quindi sono i conventi anche meno dotati dal punto di vista finanziario. Quindi vorrei dire che l'entità maggiore dei beni messi in vendita durante l'età napoleonica erano beni appartenenti al clero regolare. Ecco, per rispondere alla sua domanda, io mi permetto anche di fare un piccolo discorso anche non dico a nome, ma approfitto della domanda che lei ha fatto a Placanica prima. Secondo me non si può dire che cosa tengo in considerazione dal punto di vista metodologico quando faccio un'indagine storiografica. A mio modo di vedere, il primo discorso è che obiettivo mi propongo. Se mi propongo un certo tipo di obiettivo, alcuni elementi li tengo in considerazione. Parlo dello stesso processo di liquidazione e soppressione. Alcune cose mi interessano se mi pongo il problema del miglioramento agricolo, se mi pongo il problema della modificazione della struttura della proprietà fondiaria, mi pongo e tengo in evidenza alcuni di questi elementi. Se faccio un problema di modalità di intervento dello Stato in punto di che so, di disciplina dei suoi rapporti con altri gruppi, enti e via discorrendo, ancora una volta darò l'accento a alcuni momenti del particolari del complesso dei provvedimenti che hanno dato luogo al, a questo fenomeno della soppressione. Ecco, quindi io preciserei innanzitutto qual è l'obiettivo. Per venire poi sulla domanda specifica, io direi una cosa, dalle soppressioni settecentesche che sono precedenti per la verità ai provvedimenti di Giuseppe II, perché già a metà del decennio 70, per esempio, mi pare nel 77 o nel 78, i lateranensi nella Lombardia austriaca vengono soppressi. Quindi c'è un processo di accorpamento di monasteri, di conventi, con messa a disposizione gli stessi gesuiti, per esempio, quando vengono soppressi, vengono espropriati poi e si costituisce il fondo per la pubblica istruzione. Quindi il fondo di religione e il fondo per la pubblica istruzione sono due fondi pubblici che vengono alimentati dalla soppressione. Ecco, però il carattere fondamentale, vuole dire settecentesco, il proprio linea di massima è questo, che il patrimonio resta patrimonio pubblico. Quindi ho sentito stamattina il discorso della differenza fra, mi parlo di Sedipe, credo, fra le soppressioni settecentesche e quelle napoleoniche, è che la destinazione dei beni nella esperienza settecentesca è quella, è lo Stato che li gestisce, insomma, quindi mantiene un suo patrimonio. Il discorso diverso è nell'età napoleonica, perché allora i beni vengono acquisiti dallo Stato e vengono messi in vendita. Quindi c'è una diversità di destinazione poi. Nel primo caso quindi non pone il problema dell'individuazione dei processi di alienazione, perché non ce ne sono significativi. Nel secondo caso diventa importante invece tenere conto delle modalità di alienazione. Dirò che per l'esperienza lombarda in particolare le soppressioni e le alienazioni finiscono grosso modo negli anni 812-813, dopodiché per via di provvedimenti formali da parte del pubblico potere non ce ne sono più, credo, fino a dopo il 1867 con la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Mi sembra importante però in questa logica qua tenere conto delle modalità concrete attraverso le quali si è realizzata l'alienazione, perché per esempio, come il caso lombardo, dove, come il caso del Regno Italico direi, dove tutte le leggi di soppressione hanno fatto salvo sempre e comunque l'unità aziendale, non hanno mai spezzato l'unità aziendale, hanno spezzato la proprietà semmai, ma mai l'unità aziendale. Voglio dire che il monastero di Meda, che liquida 20.000 pertiche, certo che il monastero di Meda viene venduto a più individui, ma attenzione, il tipo di scorporazione che si fa è per azienda. All'interno di questa grande proprietà di 20.000 ettari si vanno ad individuare le unità aziendali, che saranno di 1.500 pertiche, scusate, 20.000 pertiche, saranno di 1.500 pertiche, di 50 pertiche, e a seconda di questa suddivisione dell'intera proprietà si fa l'alienazione. Quindi non c'è la rottura. Lo stesso le grandi possessioni dell'irriguo. È vero, per esempio, che nell'Odigiano ci sono i grandi possessi fondiari, però anche lì si mettono in vendita rompendo la proprietà. Però il livello minimo di rottura è il contratto col singolo fittabile, il quale aveva di 15.000 pertiche, ne conduce 1.500, si mette in vendita quel 1.500 lì. Quindi avendo estrema attenzione a non spaccare quello che è il tessuto dell'agricoltura di questo ambiente qua, cioè il tipo di azienda, il modo di condurre, insomma, la terra, la pratica di conduzione dei terreni. Allora, da questo punto di vista è chiaro che il discorso della modalità però è importante lo stesso, perché una politica di un orientamento di politica economica esplicito, come dire, qui bisogna realizzare l'obiettivo della redistribuzione della proprietà fondiaria favorendo, per esempio, la massima diffusione della proprietà contadina, è un elemento importante. Laddove invece questo problema che non si pone, cioè l'obiettivo della redistribuzione della proprietà contadina non si pone, resta prevalente l'obiettivo di natura finanziaria, dove quel che importa è il volume delle vendite che viene effettuato, questa considerazione delle modalità di vendita ovviamente diventa fondamentale per capire il meccanismo attraverso il quale poi si è potuto realizzare o meno la distribuzione medesima. Cioè, ho risposto... Per noi, in particolare era tentare di vedere nel Trentino dove nell'arco di 20 anni avvengono almeno 4 tipologie. Era una domanda che ho sentito dal relatore, dal terzo relatore, 4 modalità, 4 tipologie di sia enti che espropriano su funzioni completamente diverse, con modalità interne e con scopi diversi. Se abbiamo quella del 1984 in particolare, dei Giuseppini, e, ecco, abbiamo dopo quel 1800 che cade il Principato, con il Regno d'Italia, quindi con il Regno di Baviera che si inserisce per me nella relazione che ha fatto il terzo relatore, e quindi poi le modalità dal 10 al 14 del Regno d'Italia, quindi tutte le quattro, no, rientrano nel globo. Quindi la domanda era, dal punto di vista metodologico, l'avevo proprio fatta in particolare al professor Placanica, mi sembrava che mi desse metodologicamente la possibilità maggiore di spessore, quanto lei aveva accentuato le soppressioni in correlazione, in relazione all'agricoltura, così accenno male, quindi all'agricoltura. Quindi, ecco, visto in questa maniera, forse per me è poco indicativa quanto i problemi, e dal punto di vista metodologico e complessivi, sono molto più legati alle due relazioni laterali rispetto a ciò. Questo era un'ingerenza che... Volevo fare una precisazione e integrazione, proprio per vedere i rapporti completamente diversi che ci sono nel Mezzogiorno. E volevo aggiungere a quello che ho detto prima, che lo sfaldamento passa attraverso non solo la soppressione dei gesuiti, ma per esempio al divieto di acquisti, per cui tutta la seconda metà del Settecento incomincia anzitutto a impedire il drenaggio dei beni laicali nelle mani della Chiesa, poi un complesso di altre cose che qui non dico, comunque impediscono questo incremento del patrimonio, mentre invece favoriscono il decremento. Ecco, dice Cova, e quello che si mantiene è l'unità aziendale. Ecco, in Calabria tutto si mantiene fuorché l'unità aziendale. Tant'è vero che il Galanti ed altri studiosi del tempo ritenevano che tanto sarebbe valso, lo dice Galanti, cioè un riformatore per Bacco, no? Tanto sarebbe valso, allora, lasciare i beni in mano alla Chiesa. È grave che lo dica un riformatore, un ministro, un anticlericale, un anticuriale, così via. Perché? Egli aggiunge che in definitiva, ma sia lui sia altri del tempo, anche e soprattutto i minori, i riformatori minori napoletani, che per me sono forse quelli che meglio sono inseriti nella realtà delle cose. Tanto valeva lasciarlo, perché ad esempio c'è una forma di unità aziendale per cui queste chiese, per cui questi enti ecclesiastici, per male che andasse, tutto sommato avevano sempre delle gregge che mantenevano. Mentre invece con lo spezzettamento, con le vendite, con l'alienazione a vari singoli, già il patrimonio zootecnico se n'è andato via. Quindi uno degli elementi della unità dell'azienda, cioè il patrimonio zootecnico legato alla rotazione e così via, in quel momento viene meno. Questo si collega a un discorso di enorme importanza, a cui stamattina ho soltanto accennato. Il fatto del tradimento di un essenziale obiettivo della Cassa Sacra. La Cassa Sacra si pone questo obiettivo: aumentare, se non ricordo male, tra virgolette, aumentare il numero dei proprietari nella provincia, il che significa incrementare la piccola proprietà. E in questo momento stesso, però, scoppia una grossa polemica all'interno degli stessi riformatori. Ripeto, dei minori, i grandi pare che non avvertissero per niente questo problema. Cioè, ed è un problema di estremo interesse in questo momento, c'è per esempio Spiriti da una parte, un riformatore minore, e Domenico del Toro, uno sconosciutissimo, li ho trovati per combinazione, si pongono questo problema. Noi abbiamo questa occasione della Cassa Sacra. È meglio creare dei piccoli proprietari, o è meglio mirare in direzione delle grosse aziende? E questo è un discorso troppo grosso, perché qui è in gioco addirittura la politica economica generale dell'Europa in questo momento. Se si debba mirare al capitalismo agrario, a inserire elementi di capitalismo, a inserire una dinamica diversa che porti alla costituzione di grosse aziende, o se invece bisogna mirare alla moltiplicazione dei piccoli proprietari, alla moltiplicazione dei proprietari, quindi a quelle finalità che già Genovesi aveva posto in luce sulla necessità di sviluppare gli elementi demografici, sviluppare la popolazione, cioè aumentare il numero dei proprietari o diminuire il numero dei proprietari per assurdo, estendendo la superficie e valorizzando la produttività. Sono veramente due scelte di fronte alle quali il movimento riformatore e l'attività di governo di Napoli ha una assoluta incapacità di analisi. Ecco, e secondo me, se un'imputazione è da farsi alla Cassa Sacra, è forse parecchi di questi movimenti riformistici del Settecento, cioè di riforme effettive, di riforme fatte, e di essersi abbeverate troppo, per così dire, a un riformismo visto come pars destruens del passato e non come pars construens di un futuro. In definitiva, quando Galiani e altri, anche molto timidamente, parlano della o Genovesi, ma forse Genovesi con più realismo o altri, parlano della necessità di abbattere questo monstrum che è la proprietà ecclesiastica, non dicono che cosa bisogna farne. E questo è il punto. E lì è tutto, secondo me. E quando dicono che bisogna livellare, ecco, andiamo proprio al massimo di concretezza che Antonio Genovese, quando egli dice che se fosse il Papa direbbe ai monaci livellate, livellate, ma a chi? E questo è il discorso. Perché se si smarrisce il senso del destinatario di questa operazione, noi smarriamo il senso dell'operazione stessa. Se noi non sappiamo, se non abbiamo elaborato, e forse poveretti non potevano farlo, sono vissuti 200 anni prima di noi, non avevano le idee molto chiare, ma se non si elabora una strategia complessiva, una prospettiva in direzione alla quale debba andare l'azione eversiva può rivelarsi, come si rivela in questi termini, può rivelarsi un fallimento. Tant'è vero che negli anni 90 allora sorge la contesa. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare dei piccoli proprietari, dobbiamo moltiplicare il numero dei piccoli proprietari, potrebbe significare moltiplicare il numero dei pezzenti. Dobbiamo mirare invece al potenziamento delle grandi proprietà e quindi creare l'azienda capitalistica, loro non usano il termine ma il significato è quello, e non a caso quelli che parlano in questo senso sono abbeverati al fisiocratismo francese e ancor più a Jung inglese. O dobbiamo creare appunto le grandi aziende capitalistiche? Non, ecco, da questa impasse non si muove. Ma in queste incertezze, quali elementi si inseriscono allora? Si inseriscono gli elementi dell'immobilità, cioè si inseriscono gli elementi borghesi che, sfruttando la pars destruens a proprio vantaggio, si impadroniscono di questi beni ecclesiastici che sono destinati ad essere gestiti nelle stesse forme assenteistiche di prima. E quando noi facevamo riferimento, per esempio, alle abbazie, e come si reggevano le stesse abbazie nel Mezzogiorno? Attraverso la forma della commenda, no? Erano tutti abati commendatari. L'abate commendatario che faceva? Delegava un fittuario, lui stava a Roma, non si preoccupava minimamente della destinazione economica, dell'universalità dei beni. Se ne interessava l'affittuario. Il fittuario, il quale a sua volta non faceva che concedere a titolo precario in affitto le terre di questo ente ecclesiastico. Io ho studiato per esempio l'abbazia di Santa Maria di Corazzo e veramente chi ci rimetteva sistematicamente era l'abbazia, la quale non solo non aveva un centesimo dall'abate commendatario, ma vedeva sgretolarsi, vedeva cadere le mura dell'abbazia di questa veneranda chiesa senza avere i soldi per recuperare, perché tutti i fondi venivano a confluire a livello di canoni annui in mano all'affettuario, il quale se ne teneva una quota e mandava il resto al cardinal Pinelli a Roma, che non sapeva nemmeno dove fosse l'abbazia di Corazzo. Ora, quindi, proprio a causa di questa assoluta, di questa caratteristica di possesso indiretto e assolutamente immediato, proprio da questo la Chiesa traeva l'elemento della sua debolezza, non era un possesso di tipo moderno. Il discorso è che chi vi subentrò non introdusse, almeno in Calabria e diceva cova per la Lombardia, immaginiamo per la Calabria, non ha introdotto nessun elemento di modernità. E quindi, ma questo è da ascriversi anche, a una mancanza di analisi da parte del movimento riformatore e al fatto che questi movimenti di riforma, nel momento in cui colpirono in direzione della Chiesa, anche, non tanto come scelta economica molto nitida, talché si facesse pensare attraverso questi beni noi realizzeremo questo, nel migliore dei casi attraverso i beni della Chiesa si realizzava un incameramento di capitali per pagare debiti di guerra o per pagare altri debiti consolidati e così via, ma non che esistesse, nel Mezzogiorno non esiste una mira precisa per una ristrutturazione generale, per una trasformazione dei rapporti di produzione, insomma questo non esiste, questa mira non esiste. E quindi naturalmente una volta che questa mira non esiste, gli strumenti burocratici, gli strumenti formali, gli strumenti giuridici sono quelli vecchi. Una volta che il governo dice bisogna aumentare il numero dei proprietari, però stabilisce che lo strumento sono le aste, e basta, il discorso è finito. Non può che impadronirsene il ricco. Evidentemente mancava un'analisi molto chiara, da parte di chi? Era mancata da parte dei riformatori. Insomma, se nel 92 Galanti, che pure era stato all'avanguardia del movimento anticuriale e riformatore, dice che ormai l'economia moderna è tale che la Chiesa ne costituisce una struttura portante, lo dice in una relazione al sovrano, e che quindi tanto sarebbe valso non solo abolire la Cassa Sacra, dopo alcuni anni verrà abolita, ma tanto sarebbe valso non eliminare per niente il possesso della Chiesa, non vuol dire che ci troviamo di fronte a una mancanza di analisi da parte del movimento riformatore, che si era giovato di tutta questa grossa polemica anticuriale, ma non era altrettanto sostenuto e lucido nell'analisi circa il che fare dei beni della Chiesa. Questo, secondo me, è uno degli elementi essenziali da tenere presente. La sua analisi, pur con alcune specificazioni soprattutto che non ho capito, non ho capito proprio probabilmente per difficoltà a seguire anche il testo contato. Intanto una cosa, mi pare che l'analisi verte in gran parte l'Italia della Germania d'Occidente, insomma, no? Per la zona renana, sì. Non quindi gli altri stati germanici che avevano magari anche posizioni più arretrate dal punto di vista dell'organizzazione socio-economica. Tranne la Baviera. Una cosa che mi resta in dubbio, insomma, questa presenza della piccola proprietà contadina attraverso l'attività di mediazione, a questo punto poi devo chiedere una cosa a Cola e a tua carica. Alla fin fine, quanto sia attraverso il momento dell'acquisto diretto, sia attraverso il momento successivo all'acquisto dai mediatori, quanto in termini percentuali di estensione, e non soltanto in termini quantitativi di aziende, e la piccola proprietà contadina rispetto alla proprietà totale venduta naturalmente, e questo è un problema, cioè magari sono 100 pertiche, 100 contadini, dall'altra parte sono 100 pertiche un proprietario, si fa presto a dire che è la piccola proprietà contadina che prevale, insomma, no? Prima cosa. Seconda, quello che mi lascia un pochino perplesso, insomma, è quando si dice che tra i vari compratori, sottolineato, siano i braccianti. Cosa si intende per bracciante? Perché nella nostra conoscenza di mezzi bracciati sono quelli che malapena riescono a vedere tramite la vendita giornaliera del proprio lavoro il minimo indispensabile per la sussistenza. Ora, vedere che i braccianti sono tra quelli che riescono ad abitare la terra, mi pare piuttosto, proprio, ecco, giusto per chiedere. A Cova, l'attività di mediazione è una realtà osservata, si riesce a capire poi successivamente quanto abbia influito e che fine in seguito ha avuto questa gestione. Posso inserire? Aggiungere, ecco, così possiamo dalla commentare. Volevo chiedere, mi pare che dalla sua relazione, questo è un punto da chiarire, no? Si è venuto fuori spesso il problema del rapporto tra la vendita dei beni, l'espropriazione e la vendita dei beni e la feudalità. Quindi in che misura l'espropriazione e la vendita incide sulla feudalità, almeno nelle aree ancora interessate per la zona che lei ha preso in considerazione, ma le aree ancora interessate dalla feudalità, perché mi pare che la zona renana sia interessata per un certo punto al discorso della feudalità. A Cova invece volevo chiedere, forse è un tema che ci ha appassionato anche i tempi andati, ma semmai è rimasto tra i il problema, volevo insomma qualche chiarimento a proposito del problema dei passaggi di proprietà all'atto della vendita. Cioè, noi sappiamo, no, che in sostanza, a me sembrerebbe, io non so, tu avrei visto meglio una cosa, ma sembrerebbe appunto che in effetti una parte di queste vendite abbia avuto dei protagonisti dei prestanomi. In che termini, cioè c'è la possibilità di fare qualche accertamento di questa direzione, tu l'hai fatto. Ma professor Placani, che infine volevo sottoporre il problema. Lei ha parlato, ha connesso, non so in che misura, ha connesso la trasformazione, il passaggio dal gesseto, la crisi della produzione gesso vaticola in Calabria, no? In funzione, te lo ripeto, al fenomeno appunto della vendita di questi beni. Non so se questa connessione è reale oppure debba solo essere intesa in termini di coincidenza. Allora, cominciamo. Va bene, che cosa sono Bracciandi? È una questione difficile, perché normalmente si dice da noi in Germania che non esistevano dei lavoratori, sì, operai salariati prima della rivoluzione industriale. Dunque devo dire che anche nelle regioni all'est dell'Elba, ma quelle regioni non interessano adesso. Lì c'erano molti, molti operai salariati, ma anche e soprattutto in Baviera esisteva un nucleo di operai salariati dei monasteri che facevano che operavano nella gestione, nell'autogestione di questi monasteri. Allora questi hanno perso il lavoro nel corso della secolarizzazione, dunque il governo bavarese si è detto bisogna indennizzare questi personaggi con qualche terra, senza pagare per lo più. Mentre esistevano degli artigiani anche che sono anche essi stati salariati da parte dei monasteri e avevano delle pensioni da parte dello Stato, allora rinunciavano a questa pensione per avere anche essi un piccolo potere. Allora questi erano i braccianti. Poi l'altra, non ho capito bene, la piccola proprietà contadina, la relazione con qua? Al termine del processo di vendita diretta e al termine della vendita dei degli intermediari, il peso percentuale della piccola proprietà contadina rispetto all'altra proprietà che vanno borghesi, vanno aristocratico, eccetera. Questo non so dire, perché non esistono calcoli. Siamo a Treviri in un corso di studi su tutta la riva sinistra del Reno. Stiamo studiando tutti gli atti non notarili ma delle aste della secolarizzazione da parte dei francesi, ma sono 12.000 documenti di vendita. Poi non abbiamo finito, bisogna una macchina di calcolazione elettronica, non abbiamo ancora finito questo lavoro, non posso dire. L'unico che è certo, sia sulla riva destra sia sulla riva sinistra, che il numero delle piccole proprietà contadine si è aumentato molto, molto molto, soprattutto sulla riva destra, per esempio nella Baviera, perché furono distrutte le unità economiche dei monasteri in Bavaria e si sono vendute le parcelle. Allora è evidente che la piccola proprietà contadina ha dovuto aumentare notevolmente, ma non posso dire calcoli precisi. E l'altra domanda, secolarizzazione e feudalità, devo dire ancora una volta che c'era molto da secolarizzare, soprattutto sulla riva destra, molto da secolarizzare, un poco da vendere, perché non tanto sulla riva sinistra, perché la riva sinistra del Reno era non a caso un paesaggio con un mercato e una struttura sociale economica molto più moderna del resto della Germania, con molte città medie, grandi e con una percentuale di proprietà moderna che è stata in affitta, che è stato detto vale al 30%, cosa che è assolutamente non normale per il resto della Germania, dove l'affitto in termini moderni non si conosceva nei primi del 800, perché il regime feudale era assolutamente esistente e in vigore, e gli stati della riva destra non volevano dare i titoli feudali nelle mani del terzo stato. Questo non appare come programma politico o sociale. Non fu fatto mai, mai. Cosa che facilitava enormemente le riforme fra il 1800 e il 48. Sì, dopo lascio la parola. Ecco. Dunque, per la mediazione. Ecco, la funzione del mediatore così c'è, è presente, nella pratica del processi di alienazione del patrimonio ecclesiastico. Direi che era la norma, perché alle aste non partecipava chi era direttamente interessato all'acquisto della terra, normalmente partecipava un tizio che di mestiere faceva il così, intermediario, insomma, in questo tipo di lavoro. Offriva, cioè aveva probabilmente un mandato a fare un contratto preliminare che era appunto l'asta, e poteva, aveva la procura per firmare l'atto provvisorio di aggiudicazione del terreno, del bene che risultava dal dibattito dell'asta. Direi che la ragione fondamentale, io immagino, è probabilmente la necessità di un minimo di conoscenze, insomma, della procedura tecnica con la quale l'asta si avviene, e poi anche perché l'asta non sempre durava una giornata, cioè il dibattito, la discussione d'asta poteva andare avanti anche un giorno, due giorni, a seconda del grado di soddisfazione che l'amministrazione pubblica aveva intorno al prezzo offerto che veniva fuori dal dibattito durante l'asta. Quindi direi che la mediazione c'è, la mediazione è anche una funzione che troviamo poi in, non soltanto nell'acquisto di beni fondiari, ma nell'acquisto anche degli altri beni in cui c'è la presenza di un tale personaggio. E si ricollega poi al discorso di Moioli. Quando io faccio le rilevazioni della vendita dei beni nazionali, esamino il contratto definitivo che viene sottoscritto quando tutte le procedure amministrative sono espletate e in cui il notaio chiede non la presenza del prestanome, ma chiede la presenza del titolare effettivo sul quale intestare la terra. Allora nel contratto, mentre nella procedura d'asta c'è la forma del per persona da dichiarare, in cui il partecipante all'asta sottoscrive l'atto preliminare e si riserva di comunicare il nome al momento della stipulazione del contratto effettivo, alla stipulazione del contratto si presenta l'individuo che compra. Quindi io nelle mie rilevazioni non ho fatto riferimento al personaggio che ha partecipato all'asta, ma a quello che è titolare, ripeto, effettivo del contratto. Certo, altro discorso è dopo che capita, quel tale che ha sottoscritto il contratto, la terra la tiene lui o la rivende? E però a questo punto qua diventa francamente sostenibile il discorso, estendiamo al secondo passaggio. Il secondo passaggio può avere tutte le motivazioni di questo mondo, allora il discorso diventa il mercato fondiario nell'età napoleonica e dopo l'età napoleonica. Come faccio a dire, estendo il discorso al secondo passaggio che si limita agli anni napoleonici? E perché uno che vende nel 1821, per esempio, non è come quel tale che ha venduto nel 1809 o nel 1810? Quindi il secondo, è vero che può darsi che il patrimonio fondiario sia passato di mano, però questo risponde ad un discorso di dinamica fondiaria che può avere le sue motivazioni più diverse. E quindi io a questo punto qua si porrebbe il problema dello studio del mercato fondiario, però in una sua logica, che non è la logica dell'alienazione dei beni nazionali. L'alienazione dei beni nazionali, a mio modo di vedere, è corretto, anche se non tutti sono della stessa opinione, è corretto dire, vabbè, il passaggio effettivo della terra è avvenuto così, da qui in avanti può anche darsi che sia rimasto lì, può anche darsi che abbia conosciuto, però secondo me questo secondo discorso potrebbe essere utilmente fatto, però in un tipo di indagine che ha come oggetto la mobilità della terra durante l'età o napoleonica o posteriore a quella napoleonica. Al limite potete trovare addirittura che c'è una dinamica fondiaria più intensa dopo, come è probabile, dopo il 1815, e meno intensa negli anni della dominazione francese. Io ho l'impressione che ci sia un notevole grado di stabilità, questa è la mia impressione, insomma. E anzitutto l'enorme differenza, la notevole differenza, la significativa differenza tra due aree. Per esempio, Cassa Sacra, 1784, viene vietato tassativamente l'inserimento degli intermediari. Non si può fare nessuna proposta di acquisto per persona nominante. Seduta stante si deve dichiarare chi è la persona che effettivamente comprerà e sborserà a pena di nullità dell'atto. E le stesse aste duravano troppo tempo, duravano 130 giorni in definitiva, tra le varie sedute d'aste, che qui non sto a raccontare. Quindi sarebbe stato impossibile al prestanome nascondersi, e poi era tassativamente vietato. Semplicemente io ho trovato un caso vero e proprio di prestanome che interveniva fingendo di comprare in proprio, però era una vera e propria finta, fingendo di comprare in proprio, ma in definitiva comprando a nome di un feudatario che non avrebbe potuto comprare. Ma questo è l'unico caso che ho trovato. Invece il discorso vero è che non ce n'era bisogno di prestanome, cioè la situazione era così drasticamente evidente, i toni delle vendite erano così crudi che colui il quale voleva comprare poteva comprare benissimo, evitando assolutamente la concorrenza grazie al suo peso economico, e gli ho detto, ove non ci fosse riuscito, grazie al potere di intimidazione attraverso i prepotenti. Tanto è vero che una delle accuse che più frequentemente si fanno a Napoli da parte di alcuni contadini, e frequentemente da parte degli stessi funzionari, è che nelle aste si determinano dei monopoli, loro lo dicono con molta chiarezza, questo è il termine, omonipoli, cioè il fatto che le aste fossero troppo tranquille, che non ci fossero concorrenti sotto l'asta, che il concorrente fosse o uno, o due, o tre, ma estremamente ben organizzati fra di loro, in modo tale che si sapeva già dal principio chi dovesse prendere il fondo e chi invece dovesse perderlo, con le uniche eccezioni di quelle zone a forte presenza borghese, là dove invece le contese sotto l'asta fiscale furono rilevantissime, ma sono casi piuttosto rari nella Calabria del tempo. Quindi addirittura in Calabria non c'è bisogno di prestanome, non è possibile, non ce ne sarebbe nemmeno il bisogno, perché è troppo forte il prepotere economico sul resto. E poi comunque ritornerò per un istante di questo. E per rispondere all'uliveto al posto del gelseto, il gelseto è l'eliminazione dei gelsi, è la conseguenza del fallimento dell'industria della seta in Calabria, che tramonta sia per tre motivi sostanzialmente. Anzitutto per le eccessive bardature amministrative, burocratiche e fiscali che gravavano sulla seta, che da secoli era la produzione privilegiata del Mezzogiorno e della Calabria in particolare, primo motivo. Secondo motivo, per una troppo cospicua ormai concorrenza internazionale. Terzo, proprio per le caratteristiche della seta calabrese. La seta calabrese non era seta normale, o era seta di scarso pregio e veniva quindi vinta. Non dimentichiamo quale tipo di consumatore sorge nel Settecento, quale tipo di nuova borghesia proto-paleoconsumistica si affaccia nel Settecento, che tipo di consumi, che tipo di prodotti vuole questa borghesia settecentesca, italiana e d'altrove, no? Vuole un determinato tipo standard medio di sete. Ebbene, la Calabria o delle sete piuttosto scadenti, è vero, anzi non si tratta ormai più di sete, ma si tratta di cascami di seta che vengono utilizzati per dei tessuti inferiori, oppure ha dei tessuti di estrema bellezza, che anticamente avevano gareggiato con le migliori sete francesi. Infatti, più che di produzione di seta, noi per la Calabria, loro lo sanno, dobbiamo parlare di produzione di damaschi. La Calabria è famosa per i damaschi e per i velluti, ma il Settecento è in prospettiva la fine dei damaschi e dei velluti, perché è la fine di quelle categorie sociali che si erano mandate di velluti e di damaschi, cioè una certa corte, una certa elite. Quindi questo mercato viene meno e tramonta l'arte della seta, per questi complessi motivi viene meno il gelso, con un complesso di fenomeni indotti che qui non sto a dire, ma la stessa struttura demografica delle città ne subisce dei contraccolpi, la struttura delle emigrazioni, dell'immigrazione subisce dei contraccolpi notevolissimi da parte di questo tramonto dell'arte della seta. E i gelsetti vengono letteralmente eliminati, vengono tagliate le piante di gelso e vengono sostituite dall'uliveto. Uliveto che, ecco, vorrei chiarire, non ha per niente caratteristiche moderne. Il Domenico Grimaldi, che noi possiamo considerare il principe degli agronomi meridionali, e anche altri, ma soprattutto il Grimaldi, giudicava che l'uliveto nel Mezzogiorno, particolarmente in Calabria, non era coltivato con nessuna attenzione, con nessuna cura. E allora perché si impiantava l'oliveto? Esclusivamente perché era fonte di rendita anch'essa parassitaria. Chi comprava molti oliveti li comprava esclusivamente per darli in affitto agli altri e perché al più presto possibile si facesse dell'olio il peggiore possibile, ma in più grande quantità, in modo che venisse immesso su qualche mercato, ma ecco, senza grandi prospettive di trasformazione qualitativa. Che cosa accade? Che questa grossa concentrazione olivicola, qual è la Calabria, sarà la prima a subire i contraccolpi dei cali dei prezzi dell'oliveto. Allo stesso modo in cui negli anni 80 del secolo XIX le grandi estensioni addette a grano sono le prime a subire i contraccolpi della crisi granicola del russo-americana, e così proprio le grandi estensioni ad olivo saranno le prime a subire questa conseguenza. Sono conseguenze che risalgono lontano a una mancanza di prospettive nell'utilizzazione del territorio. Il discorso, però, adesso arriva alla piccola proprietà. Quali sono gli esiti di questa cassa sacra? E risulta incrementata la piccola proprietà? No. Proporzionalmente risulta incrementata la grande proprietà. Perché quelli che acquistano sono esclusivamente o piccoli proprietari precedenti o grandi proprietari precedenti. Quanto più uno è grande proprietario, tanto più proprietari riesce ad acquistare. Proporzionalmente non può che diminuire la piccola proprietà e quindi aumentare lo squilibrio. Perché nella logica e anzi il regime della piccola proprietà contadina, che era enormemente più diffusa di quanto oggi noi non possiamo minimamente immaginare, esisteva questa logica. Affinché il grande latifondo potesse sopravvivere e potesse sopravvivere a livello di rendita proficue per il grande proprietario, era necessario che fosse coltivato da una rosa di piccoli coltivatori, i quali però affinché non morissero di fame, con lo stipendio di fame che loro veniva corrisposto al grande proprietario, avevano bisogno di piccoli fazzoletti di terra ciascuno, i quali circondavano per così dire il latifondo. Così il latifondo si alimentava anche di questa fame di terra che era alimentata da queste piccolissime proprietà contadine, come ho detto, era la Chiesa la prima a garantire intorno al latifondo. Così il piccolo contadino, un 75% di reddito riusciva a trarlo dalla coltivazione del latifondo a beneficio del latifondista e il 25% che gli consentisse il livello di sussistenza, la soglia, lo racimolava attraverso la coltivazione proprio di un piccolissimo campicello dato di infitto accenso da parte della Chiesa. Ma non appena la grande estensione si dilata e la piccola non si incrementa, e non appena queste piccole rose che circondano l'edificio latifondistico vengono meno, perché il latifondista si inserisce anche in quelle zone, è logico che lo squilibrio incomincia a sorgere e tanti fenomeni dell'Ottocento, la instabilità sociale che nel Sette Ottocento è evidentissima, mentre nei secoli precedenti di oppressione feudale noi non troviamo per niente, trovano la loro giustificazione proprio in questo. E tutti i grandi tentativi ben riusciti dei Borboni di innestarsi in una politica di dissoluzione sociale, dal tempo della Santa Fede al brigantaggio del 60, si innestano proprio su questo squilibrio indotto nelle campagne, per cui ora i lavoratori sono più poveri di prima, molto più poveri adesso che non nei tempi grigi dell'oppressione feudale. E quando poi si arriverà alla grande soluzione moderna dello Stato nazionale, i lavoratori, i piccoli contadini squilibrati ancora di più ormai, hanno due soluzioni davanti. La prima è il brigantaggio. La seconda sarà l'emigrazione. L'emigrazione che cos'è se non l'ultima tardiva risposta nei riguardi dello squilibrio che è nato nel Settecento e che si è alimentato momento per momento, degradando sempre di più i piccoli fondi, incrementando il latifondo e non introducendo elementi di modernità nel latifondo medesimo. Del resto, questo era già molto chiaro ai contadini, il gioco. Non è da pensarsi che non fosse molto chiaro ai funzionari della Cassa Sacra e ai contadini. I contadini negli anni 90 chiedono in quasi tutti i comuni della Calabria che siano restituiti i regolari, chiedono che cioè vengano reintrodotti nel possesso delle loro terre i vari ordini religiosi. E questo non avveniva certamente per attaccamento alla religione, avveniva perché i contadini si accorgevano, sia pure umbratilmente, che al loro danno obiettivo stava avvenendo una piccola trasformazione, che li eliminava, le emarginava, anzitutto le emarginava dal mercato delle idee, secondo toglieva di mezzo una loro controparte tutto sommato abbastanza familiare, qual era la Chiesa, e da questa grossa operazione essi non potevano che trarre dei danni. In definitiva, chi si inserisce nel mercato adesso sono i galantuomini, sono i borghesi, quindi i contadini capiscono molto bene com'è il gioco. E qui si inserisce un discorso molto serio che alcuni anni fa mi ha portato a polemizzare anche con Rosario Villari. Cioè, la convinzione comune è quasi che questi contadini, che il sacrificio di questi contadini, il discorso anche di Romeo ormai, no? Che il sacrificio di questi contadini sia stato, per così dire, una felix culpa operata dalla borghesia al loro danno, perché essendo i contadini così nativamente portatori soltanto di esigenze arcaiche, difensori del demanio e basta, non portatori di esigenze moderne di sfruttamento produttivistico della terra. E questo non è vero invece, non è vero per due motivi. Prima, perché la borghesia sopraggiunta al posto della Chiesa non ha dimostrato nel Mezzogiorno d'Italia di portare avanti istanze produttivistiche tali che la trasformazione delle strutture sociali, delle strutture produttive ne sia risultata trasformata. In secondo luogo, gli atti di quel periodo, soprattutto non i verbali d'asta, perché i verbali d'asta danno vittoriosa la borghesia vincente ormai, ma i ricorsi che ci sono dietro rivelano invece nei contadini non il desiderio di rivendicare i demani, non il desiderio di rivendicare il vecchio. I contadini vorrebbero entrare in possesso della terra che coltivano come colonia. Essi dimostrano, e in qualche caso l'ho potuto seguire, quante innovazioni in un determinato terreno essi hanno apportato, quanti terreni essi hanno trasformato con l'introduzione dell'uliveto, ma soprattutto del frutteto, quante zone essi hanno trasformato in meglio, dicendo queste zone erano una volta coltivate così, noi siamo riusciti a farne questo. E molto spesso, in solido, più contadini chiedono di poter avere accesso, di poter acquistare un determinato fondo. Come risponde l'autorità di governo? L'autorità di governo risponde, presentate dalle aste. E lì casca l'asta. Naturalmente i contadini, i quali nel Mezzogiorno non possono che vivere la vita grande di persone sottoposte a una jugulazione continua da parte dei grandi proprietari, non possono competere sotto l'asta fiscale. Per cui o non si presentano per niente, dopo la prima tornata d'asta vengono sconfitti. Questo non significa che i contadini fossero quasi per una loro maledizione insita destinati ad essere portatori di prospettive arcaiche. Non è vero. Non rivendicavano mica i demani, rivendicavano anche i demani, rivendicavano anche le terre usurpate, ma nel periodo della Cassa Sacra essi mirano a impadronirsi dei beni della cassa, che molto spesso sono stati essi i primi a trasformare, semplicemente che per il meccanismo delle aste non riescono a entrarci. Ma il meccanismo delle aste che cos'è? È una mancata scelta politica da parte delle autorità di governo, che non hanno idee chiare su quale scelta di fondo fare. La stessa feudalità, che non rientra in questo discorso della Cassa Sacra, negli anni delle trasformazioni napoleoniche, negli anni dell'eversione della feudalità, la feudalità esce rafforzata. Dalle leggi eversive della feudalità, la feudalità stessa non trae che forza, non trae mica debolezza. Perché la feudalità, in definitiva, a fine Settecento e fino al 6, aveva in gestione dei proventi della giurisdizione ormai rinviliti. Ormai non è che a 800 iniziato si potesse pretendere molto come carcere, come diritti feudali antiquati, erano minimi. Quindi per questo poco di diritti feudali in attivo, la feudalità doveva pagare parecchio in passivo, perché tutti i terreni feudali, per presunzione di diritto, erano sempre dei beni pubblici e come tali sottoposti agli usi civici, e come tali non diviene libera e alienabile proprietà, e quindi sottoposti a mille limiti. Allora che torna facilissimo, giovevolissimo, alla feudalità barattare quei quattro diritti feudali che ormai non rendono niente, con l'ammodernamento definitivo, almeno a livello giuridico, con l'ammodernamento definitivo del proprio possesso, così il loro feudo si trasforma in allodio e finalmente ne diventano proprietari e ne espellono i contadini che avevano gli usi civici. E nello stesso tempo rinunciano per sempre a quelle piccole frangi di rendita feudale, diventando così che cosa? Diventando proprietari borghesi come tutti gli altri, sempre senza introduzione di elementi di capitalismo e sempre con l'emarginazione di queste masse contadine. E se si parla qui di masse contadine che vengono emarginate, non lo si dice già per spirito filo contadino, ma perché l'aver emarginato i contadini, l'averli resi poveri, averli mantenuti come nucleo portante però al posto delle macchine, al posto delle innovazioni tecnologiche, aver mantenuto il loro lavoro e quindi la loro ignoranza anche, come fulcro portante di un'economia agraria, ha significato il condannare un'economia agraria stessa al fallimento e alla sua debolezza fino al giorno d'oggi. Si inserisce quella situazione che c'è noi oggi, tutto cosa tu dicevi che la comporterebbe in termini di contratti. Ah sì, cioè c'è un altro aspetto che pesa diversamente, credo, al sud rispetto al nord, ma che è presente in tutti e due gli ambienti. Questa operazione coincide con, non so se origina o da che parte origina, ma comunque coincide con un peggioramento dei patti agrari, cioè con un'accelerazione del peggioramento dei patti agrari, perché questo peggioramento è iniziato già da prima. Era una considerazione. No, a valora che si riesce a cagare. C'era Leonardo che voleva. Ma più o meno era questo l'argomento. Io, Alessandro, mi ha fatto ricevere il suo placante, appunto sul peggioramento della condizione dei contadini, coltivatori, dei piccoli contadini. E in seguito al passaggio della proprietà della terra dagli enti ecclesiastici a dei privati, volevo chiedere al professor Coppa, che ha sostenuto come nell'ambiente lombardo circa il 70% delle alienazioni avvengano nella regione della bassa irrigua padana, e quindi in una zona dove la coltura era estremamente razionalizzata e non poteva quindi andare incontro a ulteriori grosse innovazioni, dove tuttavia ha sostenuto che la nuova proprietà fondiaria era particolarmente attenta a rispondere positivamente alle sollecitazioni che venivano dal mercato. Quindi per fare questo, per rispondere positivamente a queste sollecitazioni che venivano dal mercato, quale prezzo ha dovuto pagare il ceto, la classe contadina subalterna? No, non capisco francamente cosa vuol dire, quale prezzo deve pagare. Qui l'organizzazione, no, non capisco, no, voglio dire, l'organizzazione di questa agricoltura le sa com'è combinata, insomma. La proprietà fondiaria affitta, cede l'uso della terra affittabile con canone d'affitto a denaro, normalmente, e con patti contrattuali di lunga lena, 9 anni o giù di lì. Dopodiché il fittabile con l'uso della terra, con la terra come capitale, usa la forza lavoro, usa capitale d'esercizio suo, che sono le scorte, che sono le sementi, che saranno il bestiame, saranno queste cose, e organizza questi fattori produttivi e dà vita all'attività di gestione di questo tipo di azienda. Quando io dico il rinnovamento della proprietà fondiaria vuol dire semmai una facilitazione a far muovere questa agricoltura in una direzione che è congrua con o che risponde positivamente alle società di mercato, voglio dire che è una proprietà fondiaria che non si oppone a che il fittabile protagonista di questo processo di crescita, insomma, di miglioramento di questa agricoltura, orienti la sua produzione a seconda della domanda. Tanto per intenderci, dopo il 1815, quando i prezzi dei cereali maggiori, grano turco e grano, entrano in crisi o comunque sono in una fase di stabilità sostanziale, la reazione di questo ambiente qual è? L'accentuazione degli indirizzi produttivi che sono fuori da questa crisi. Voglio dire, accentuano per esempio le coltivazioni a riso, perché il riso è il cereale che risente meno della crisi e riprende più facilmente il prezzo, cioè tende ad aumentare il livello dei prezzi del riso, ma soprattutto accentua gli indirizzi foraggeri, cioè accentua gli indirizzi zootecnici, più foraggio, più bestiame e via discorrendo. Questo cosa succede? Succede che la manodopera contadina non paga nessun prezzo, perché la manodopera contadina è continuamente la manodopera contadina salariata, che lavora alle condizioni che il fittabile ritiene di dover riconoscere in punto di retribuzione. Quindi in questo ambiente la manodopera contadina non ha mai nessun ruolo di nessun tipo, se non quello di andare a lavorare nell'azienda del fittabile alle condizioni in genere che il fittabile ritiene di dovergli pagare. Questo nell'irrigo però. Nell'irrigo, difatti. No, la domanda sua è dell'irrigo, eh. Semmai voglio dire che la manodopera contadina subisce, questo è anche la manodopera contadina diretto coltivatrice con i contratti misti a fitogramma e mezzadria, subisce comunque, perché il potere contrattuale sia del piccolo contadino dell'asciutto come del bracciante dell'irrigo è di una modestia tale per cui tutto quello che, voglio dire, o l'imprenditore giù oppure il proprietario fondiario, l'intermediario su, ritiene di dover caricare sul mondo contadino. Se è una fase di espansione per i contadini dell'asciutto, tutto sommato con l'allevamento del bacco da seta, nella prima metà dell'Ottocento non conoscono una fase di particolare difficoltà, perché bene o male si inseriscono, pur non approfittando un granché, anzi approfittando poco della congiuntura favorevolissima, però si inseriscono certamente in questo processo di crescita. E i salariati al sud non pare che abbiano migliorato di un granché i livelli retributivi, probabilmente non li hanno visti peggiorare, poiché anche qui la congiuntura era favorevole. Però è un discorso che non è documentato in termini concreti, insomma, di andamento dei livelli retributivi. Si potrebbe semmai dire, forse una tendenza, ma è tutto da verificare questo discorso, è che l'accentuazione degli indirizzi foraggeri semmai è risparmiatrice di manodopera. Quindi il carico di forza lavoro che viene richiesto da un'azienda al limite tra la foraggera e il cerealicolo è molto minore nella foraggera che nel cerealicolo. Basta pensare alle operazioni di campagna che vengono praticate, che so, per la coltivazione del frumento rispetto ad una zona a prato che resta a prato per 3-4 anni, come capita in queste zone qua. Quindi semmai è risparmiatrice di manodopera. Potrebbe determinarsi in altri termini forse un tendenziale squilibrio fra la popolazione, che è sempre in tendenziale crescita, fra la popolazione disponibile, residente, presente, e la popolazione e le occasioni di lavoro in un'agricoltura che si muove sulla via dell'accentuazione degli indirizzi foraggeri. Però anche qui c'è la compensazione, in parte in pianura, se si coltiva anche, si comincia ad allevare il bacco da seta, può anche darsi che ci sia un minimo di compensazione nell'occupazione, semmai della famiglia, in questa attività di allevamento del bacco, anche nelle aziende, negli ambienti dell'irriguo. Ecco, però voglio dire, ecco, questo è il punto che mi pare fondamentale, non c'è una posizione diversa resa, spiegata o determinata dal processo di trasformazione. C'è una continuità, insomma, di posizione. Niente contavano prima, continuano a non contare niente anche dopo, tanto per intenderci, ecco. Io a me credo sia da chiudere anche perché numerosi colleghi e amici vanno al prato, quindi hanno il treno. Io volevo solo richiamare l'attenzione su un tema, su un aspetto di questa tematica così interessante, che è stato sfiorato numerose volte sia nelle relazioni stamattina sia nel dibattito del pomeriggio, ma su cui non è stata forse compiuta un'opera di definizione sintetica, insomma. Cioè questo fenomeno della rete dei beni ecclesiastici, eccetera, per quanto sia comunque è stato inventato, gestito, portato a termine da un potere pubblico, chiamiamolo Stato comunque da un potere. A me piacerebbe sapere se è possibile, perché devo essere degli esperti, se è possibile formulare una qualche conclusione, no? Sul significato, sul senso, sugli effetti che questo grosso, importante, lungo fenomeno ha avuto in ordine al crescimento di peso dello Stato come appunto organizzazione del potere, insomma, in due termini, almeno in questi due termini, cioè in termini di politica economica. E stamattina sia Cova che anche Tracanga e poi anche Dipper appunto delle volte sottolineavano, no? L'importanza, per esempio tu Cova dicevi dovrebbe guardare il problema della politica dei dazi, mentre invece sia Tracanga che Dipper parlavano del significato che in certi casi la merita aveva in termini fiscali, di recupero dei certi fiscali, così. Quindi sotto questo primo profilo, che è quello della politica economica, che è essenziale evidentemente per tutta la storia dello Stato moderno nell'Ottocento, no? E poi nel secondo livello, secondo punto di vista, in termini direi di organizzazione burocratica, cioè questa macchina che tanto si deve mettere in piedi per arrivare a Sterente, cioè è una macchina. Quando nella fine del 600 si introducono, si incentiva enormemente il ricorso alle imposte indirette, per esempio, no? La macchina che si costruisce per andare a riscuotere le imposte indirette diventa una delle colonne portanti di quella che poi sarà la vocazione. Ecco, dico, questo è un grosso fenomeno che dura anche molto, molto tempo, insomma, invece a fine del 700, dal punto di vista del meccanismo burocratico, comporta qualche cosa, non comporta. Dipper mi diceva prima a Franz che per esempio in Germania c'è questo aspetto interessante, tutta la burocrazia dei monasteri diventa burocrazia statale, ad esempio. Quindi questo significa che ci sono proprio anche dei mutamenti di tipo quantitativo, tipo qualitativo nella burocrazia statale. Tracanga dice, ma ricorrono all'asta, quindi questo vuol dire che è il governo che non sa cogliere l'occasione, usa uno strumento, ma guarda caso, ricorrono all'asta in Calabria, a Milano e in Germania. Quindi allora cosa vuol dire, insomma, cioè, scusate, ma credo che non sia una risposta definitiva da dare a questo problema. Vorrei solo richiamare l'attenzione sul fatto che probabilmente questo fenomeno della rete degli uffici, sia per il peso che ha in termini di mobilizzazione di un capitale, insomma, no? Enorme, e sia per la durata che ha, e sia per il periodo in cui si inserisce, un periodo rivoluzionario anche per quel che riguarda la storia delle istituzioni e così via, è un tema importante, e quindi va visto questo problema della rete dei beni ecclesiastici, probabilmente non solo in termini di storia economica, non solo in termini neanche di storia sociale, ma probabilmente anche in termini di storia dello Stato. Posso dire solo una cosa, per dire l'accrescimento della complessità della struttura amministrativa dello Stato, bene, i beni nazionali danno luogo ad una organizzazione specifica, ad un ufficio che prima si chiamava Agenzia dei Beni Nazionali, poi diventa Economato dei Beni Nazionali con un suo direttore, con funzionari dell'ufficio centrale dei beni nazionali e degli uffici periferici nelle sedi capoluogo di dipartimento, con i subdelegati, quindi nelle città importanti appartenenti ai vari dipartimenti, non sede del dipartimento, ma penso alle subdelegazioni di Crema, per esempio, per il dipartimento dell'Alto Po, di Lodi e via discorrendo, qui danno vita ad una organizzazione specifica. Direi che però è personale civile, a mio modo di vedere, il personale ecclesiastico reso libero, insomma, dalle soppressioni, ha alimentato, siccome gli riconoscevano una pensione, probabilmente ha alimentato forza non lavoro, insomma, ha alimentato un gruppo di pensionati, diciamo così, almeno apparentemente, comunque erano titolari di una pensione, a carico del bilancio dello Stato, prima a carico dell'Agenzia dei Beni Nazionali, poi a carico dell'Economato, poi a carico finalmente degli organi dell'amministrazione del debito pubblico. Monte Napoleone aveva una sezione, la Cassa di Garanzia, che aveva come compito quello di gestire le pensioni civili, le pensioni ecclesiastiche, le pensioni militari, col gruppo, mi pare che erano forse 28.000 o 30.000 persone, i titolari di pensione ecclesiastica a carico appunto del bilancio dello Stato. Quindi non è una cosa piccolina in una entità politica, tutto sommato, non grandissima come il Regno Italico. Questo per quel che riguarda veramente il, e poi c'è veramente da studiare, secondo me, io ce l'ho in mente, insomma, è un vecchio amore giovanile, la funzione di Giuseppe Prina, ministro delle Finanze, perché è l'uomo su cui si regge tutta l'impalcatura dal 1802 in poi, della politica finanziaria, che a quel tempo politica finanziaria voleva dire anche politica economica, perché dal Ministero di Finanze dipendeva il problema della politica doganale, tanto per intenderci. Quindi, ecco, però certamente è un momento in cui di grosso rafforzamento della struttura amministrativa pubblica. No, nota bene che poi il processo di liquidazione di beni nazionali comportava anche tutta un'organizzazione delle stime, per esempio, perché i fondi venivano stimati, c'era un ingegnere stimatore che usciva, faceva le sue perizie e poi riscriveva le sue perizie, c'era un ingegnere capo al centro che riprendeva in mano le perizie, le vedeva che non ci fossero dei grossi scompensi, e quindi c'era tutto un apparato, voglio dire, e di personale di livello tutto sommato direi medio-alto da questo punto di vista, perché le persone interessate coesistevano ancora gli uffici del censo, continuavano ad amministrare l'imposta di renta, e questo semmai è proprio un ampliamento, e i livelli retributivi, io ne ho visto qualcuno, ma vi assicuro che il ministro aveva 50.000 lire all'anno, insomma, suo come ministro, probabilmente per la sua segreteria, non lo so, per il suo stipendio, ma basta vedere i segretari dei ministeri, roba di stipendio di 5-6.000 lire all'anno, non è una cosa piccola. I livelli retributivi della manodopera contadina o degli operai erano una lira al giorno, 1,20 al giorno, quindi la macchina pubblica e gli stipendi dell'amministrazione pubblica rispetto agli stipendi, ai salari correnti per la manodopera così, e per i redditi soprattutto, penso alle famiglie contadine, erano signori stipendi, insomma, e questo mi sembra un punto molto importante. Sul discorso della politica economica, io sono di un'opinione che il margine di autonomia da parte del gruppo degli operatori fosse abbastanza modesto. Qui la politica economica è a Parigi che si fa, quindi la capacità interna sia da parte dei ministri del Regno Italico, sia soprattutto da parte degli operatori economici attraverso i ministri, è molto modesta, c'è un conflitto. Voglio dire, i ministri del Regno Italico recepiscono molto bene le esigenze che vengono portate avanti dagli operatori interni, ma il discorso di trasferimento in punto di operazioni concrete, di misure concrete, è vietato fortemente dal prepotere Napoleone quando dice fate il trattato di commercio con la Francia, con l'impero, qui tutti dicono di no, a partire dall'Aldini, per arrivare a Prina, per arrivare agli altri, perché non gli interessa niente un trattato di commercio con la Francia. Poi gli dice, qui bisogna che facciate un trattato di commercio, che sia sostanzialmente impostato in questa maniera. Sollecitazione delle produzioni manifatturiere francesi, punto e basta. Quindi fate come volete, però l'orientamento è questo, e la capacità di questi di opporsi è praticamente nulla, insomma. È vero che questo si inserisce molto bene, lo faceva il discorso prima, nelle aspettative dei più, i manifattori che premono per una politica doganale diversa sono molto pochi, contano poco nell'ambito degli operatori economici del Regno Italico, e quindi c'è consenso anche almeno sostanziale, però resta certo che le linee direttrici della politica economica sono fatte a Parigi, insomma, e qui il governo del Regno Italico deve adeguarsi a questo tipo di orientamento. Bene, io credo che bisogna chiudere, cioè magari possiamo parlarne un po', ma sì. Io non voglio prendere il tema, sono di parte. Chiedo scusa, appunto. Quindi, allora magari possiamo continuare un attimo noi. Sì. Andiamo con viaggio loro. Andiamo con viaggio loro, ringraziamo ancora. Signora, sì, grazie. Arrivederci. Ciao. Grazie. E dobbiamo fare tante cose. Ci vediamo. Sì. Tante cose. Sì. Ecco, niente, quindi allora possiamo. Io credo che se loro volessero magari un po' più avanti, non so. Se no come fanno pure? Se no dobbiamo mettere i cappotti. No, non credo, però. Non so. No, perché Dillo. Sono perfettamente d'accordo con tutto quanto ha detto poco fa e vorrei aggiungere soltanto una piccola osservazione di maniera, diciamo, abbastanza tedesca. A sapere se esiste, o sono convinto che esiste, oltre a questo crescimento del potere dello Stato, che esiste una relazione fra lo scopo di politica, diciamo, economica, sociale e il regime politico degli Stati. In Germania tutti i regimi erano monarchici nel tempo. Dunque il riformismo politico, se esisteva, penso che esisteva, almeno in Baviera, per esempio, il riformismo politico fu impedito solo, in virgolette, solo dal corpo di funzionari. Nell'Italia settentrionale, invece, nel tempo dei massime vendite di terreno, gli stati erano repubbliche. Allora i deputati erano al tempo stesso i possibili compratori del patrimonio ecclesiastico e questi deputati non erano mai dei semplici contadini, naturalmente. Allora questo impediva, a quanto mi pare, ogni controllo della burocrazia, anche del regime politico, in quanto ai fini, ai scopi, se esistevano, ma lei ha detto che esistevano, scopi di riforma politica e riforma sociale. Ma io non dico che dobbiamo continuare a parlare per obbligo di ufficio, per completare il discorso. E secondo me è molto significativa l'azione che viene condotta nel tardo Settecento in Calabria. È significativo, ad esempio, che in alcune suppliche in cui si auspica il ritorno dei monaci, dei religiosi, questo per parlare di una comune opinione che molto spesso è molto più interessante di quanto non pensassero i riformatori che scrivevano. Ebbene, questi reggimenti universitari, cioè queste autorità comunali, scrivono che auspicano che ritornino i religiosi non appena sarà finito questo dissidio, non dicono tra Stato e Chiesa, fra le due massime autorità dello Stato, fra della società nella quale viviamo. Cioè questi atti d'imperio dello Stato vengono visti veramente come un contrasto dello Stato nei confronti della Chiesa. E non v'è dubbio, secondo me, che una legislazione avversiva come quella della Cassa Sacra è, se non il primo, certo il più visibile atto dello Stato nel prendere coscienza della propria laicità e della propria autonomia. Cioè in quel momento stesso, secondo me, anche a livello di comportamento, lo Stato induce e nei cittadini tutti la convinzione che al di là della Chiesa, come al di là dei feudatari, esiste una struttura collettiva comune che si fa carico dei problemi di tutti ed è in grado, attraverso il proprio imperio, attraverso i propri funzionari, di condizionare lo sviluppo economico della società. Quindi io ritengo che questo sia davvero da considerarsi uno dei primi e più cospicui, proprio momenti, cospicuo all'inglese, proprio più visibili momenti dello Stato moderno. Ma di quale Stato moderno? Ecco, laddove in alcuni contesti economico-sociali diversi lo Stato moderno è nato a un parto con la borghesia moderna, per così dire, cioè con delle strutture economico-sociali le quali e così avevano come propria aspirazione l'eliminazione del privilegio e quindi l'instaurazione di un regime di mercato più libero e quindi di strutture burocratico-amministrative aperte a loro, in questi contesti ben diversi lo Stato moderno si dà un proprio riconoscimento e non essendosi sentito nato prima, con una micidiale polemica nei riguardi del suo tradizionale antagonista, che è la Chiesa. Cioè, mentre altrove lo Stato è, per così dire, nato in un lento processo costruttivo, qui uno dei primi atti di nascita dello Stato moderno, l'organizzazione statale moderna del Mezzogiorno, è un atto distruttivo, è un atto di polemica acerba riguardo alla Chiesa. E vorrei dire che nel momento in cui viene creata la Cassa Sacra, e questa Cassa Sacra può essere vista, insomma, come un rimedio estremo a mali estremi, talché non sembra poi una linea così duramente anticlericale, antiromana. Ma in effetti lo fu, perché prima ancora di creare la Cassa Sacra, la prima decisione che il governo napoletano prende è quella di eliminare fisicamente tutti i monaci dalla provincia. Non li può ammazzare, però li caccia fuori. Già un decennio prima erano stati cacciati fuori tutti i gesuiti, adesso tutti i monaci vengono o ridotti allo stato secolare, oppure devono andarsene fuori dalla provincia a inserirsi, a incardinarsi in un altro ente ecclesiastico omogeneo. Tutte le monache vengono tolte fuori dai loro monasteri e vengono o ridotte nelle loro famiglie rispettive o incardinate a loro scelta in qualche altro ente ecclesiastico di loro gradimento. Questo che significa? Estremizzare, davvero ridurre lo Stato laicale. Il che significa lanciare una sfida pesantissima nei confronti di tutto un tessuto sociale religioso. Così che tutti videro la Cassa Sacra, donde le polemiche contro la Cassa Sacra, non solo e non tanto come un ente chiamato ad amministrare il bene della Chiesa e a ridistribuirla a favore della provincia, ma lo videro come un grosso ente avversario della Chiesa. Anzi, come una guerra dichiarata nei riguardi della Chiesa. E quindi questo atto di nascita, veramente il terremoto di Calabria, l'istituzione della Cassa Sacra, sono momenti distruttivi in cui uno Stato nascente, moderno, di tipo moderno, vuole riconoscere. Ma direi di più, e quando negli anni successivi, negli anni del giacobinismo ormai nascente, ormai fiorente, e il Galanti viene a visitare, Giuseppe Maria Galanti viene a visitare la Calabria nel 1792 e gli avanza al sovrano le proposte di creare le società patriottiche, le società economiche sull'onda delle società agrarie, economiche e patriottiche di tutta Europa, e formula anche un elenco di nomi da sottoporre al sovrano. Siamo in anni ancora non sospetti, siamo nel 1792, oddio, e Giuseppe Maria Galanti manda un elenco che per il 99% è fatto di massoni. E questo non è significativo, significa che ormai il tema dello Stato e dell'autonomia assoluta dello Stato e nei confronti della Chiesa era andato, questo processo di identificazione dello Stato nella sua estraneità e addirittura avversità nei confronti della Chiesa, era andato così avanti che non poteva darsi caso di una persona di idee avanzate che non fosse anche e sostanzialmente anticuriale. Lo Stato approfondisce questo discorso, lo manda avanti fino a quando? Fino agli anni cruciali però della Rivoluzione Francese. È la Rivoluzione Francese che pone un freno con i timori che induce nelle corti, nella corte meridionale, è la Rivoluzione Francese che induce il timore che il distacco dalla Chiesa, questa polemica contro la Chiesa, possa nuocere alla dinastia, possa nuocere alla monarchia. Solo in quel momento allora c'è una resipiscenza e il riaggancio alla Chiesa, l'abolizione della Cassa Sacra, il tentativo di restituire alla Chiesa i pochi fondi che erano rimasti e così via. Ciò non toglie però che il processo ormai era abbastanza ben avviato. E secondo me, mentre altrove, per ritornare al discorso iniziale, la mia ipotesi che mi viene in mente così, mentre altrove lo Stato moderno, virgolettiamolo quanto vogliamo perché ha diverse connotazioni, è andato avanti a un parto con forze sociali che erano interessate alla sua nascita e al suo rafforzamento, qui dove lo Stato moderno, virgolettato, nasce tardi, ha bisogno di un grosso slancio di carattere negativo e il primo nemico che trova è la Chiesa. Ne avrebbe un altro davanti e sarebbe la feudalità. La feudalità verrà sconfitta, ma solo giuridicamente, solo giuridicamente. Lo Stato ne nascerà, ne risulterà rafforzato giuridicamente perché la feudalità verrà annientata, però è anche vero che politicamente non contava più niente, però economicamente sopravviveva. Però ecco, lo Stato è in questo momento che nasce e in queste zone a modernità ritardata, lo Stato nasce con un atto negativo, di negazione dell'avversario. Questo sarebbe bello vedere per l'espressione trentina, no? No, di Carica, per l'espressione trentina, che tipo di cose si possono fare, appunto, cioè, questo qui è l'epoca evidentemente critica, no? Topica per Trento, che cessa di essere stato autonomo, per quanto lo fosse ancora, evidentemente, nell'ultima parte del Settecento, di fatto, però cessa di essere istituzionalmente stato autonomo e invece diventa provincia dell'impero, no? Caso strano, proprio questo passaggio, questa transizione istituzionale è accompagnata anche dalla vendita degli ecclesiastici, che per il principale ecclesiastico immagino, non lo so, immagino sia un fatto abbastanza importante. Quindi non so se lei ha avuto occasione di. Parlare dopo di beni ecclesiastici per quanto riguarda il Trentino è un pochino diverso forse per quanto riguarda la Calabria, nel senso che viene toccato il patrimonio degli ordini regolari. Ecco. E invece per quanto riguarda il patrimonio principesco, che aveva un'entità di altro rilievo, ecco, la questione è molto più complessa. Allora non so se sul discorso era questi termini qua, di dire un cambiamento, cioè di ipotizzare un cambiamento molto drastico. Di fatto, per quanto mi risulta, no. Quello che io invece volevo, era una domanda che probabilmente esula dagli studi dei relatori, era appunto per quanto riguarda il Trentino poi, la sensazione che dopo tutta questa bravura, chiamiamola, ecco, poco corretto forse, delle soppressioni degli ordini regolari, questi vari passaggi dal punto di vista dell'amministrazione, cioè epoca 7-800, diciamo. Ecco, insomma, però ecco, con il governo bavaro, tutta la compagnia, voglio dire, è proprio ecco, anche una sequela, ecco, ci sia stata poi una ricomposizione e un ritorno anche allo status quo, proprio di queste proprietà, voglio dire, l'entità della proprietà ecclesiastica, perché io avrei distinto, per esempio, proprietà degli ordini regolari dalla proprietà ecclesiastica, per quel poco che mi risulta da sentire. Ecco. Sia poi ricomposto di fatto, cioè che non ci sia stata questa variazione che forse invece per quanto concerne le altre regioni. Io sono convinto di no, che non c'è più. Secondo me si ricompone. No, non ce la fa più la Chiesa. La Chiesa non può farcela perché l'economia è l'acqua in cui lei nuota che è cambiata radicalmente. Del resto la Chiesa era andata soggetta a quelle emorragie. Perché era cambiata la società nella quale si muoveva. E la società nella quale si muoveva non mirava che a rimpadronirsi dei suoi beni o a condizionarla sempre più pesantemente, almeno questo per larga parte della società che noi conosciamo. E la Chiesa o si trasforma veramente in proprietario moderno, e allora finisce di essere Chiesa ed è un proprietario moderno. Può diventare grande proprietario, grande azionista di altre cose, ma non ha più il ruolo di Chiesa in quel momento. Oppure rimane proprietaria veramente come Chiesa, e allora non può essere che una proprietaria di tipo antiquato, destinata nel giro di pochi anni a perdere tutti i propri beni. È il fatto dei tempi che cambiano e della Chiesa che, appunto perché è Chiesa, non può che essere alla mercé dei tempi. La Chiesa ha sempre mirato, secondo me, molto giustamente, a essere plastica nei confronti degli eventi, a plasmarsi secondo il mutare degli eventi, quindi anche secondo il mutare degli eventi economici. Ma proprio questo allora condiziona la Chiesa. Ecco, a proposito dei grandi proprietari, io userei quella frase di Leonardo: il legno alimenta il fuoco che lo consuma. E così la Chiesa aveva alimentato un determinato tipo di proprietà. società, un determinato tipo di borghesia e così. E ora è quella stessa borghesia che non può che corroderla all'interno e a sgretolarla. Quindi se anche noi dovessimo tornare dopo questa, quella che lei giustamente chiama baraonda, cioè tra 7 e 800 c'è la rivoluzione in definitiva, c'è una rivoluzione economica. Ebbene, una volta che queste cose sono finite, che questa baraonda si è completata, beh, però i rapporti di forza sono cambiati parecchio. C'è uno Stato diverso, c'è una feudalità che ormai è messa ai margini, c'è una borghesia che ormai si è notevolmente potenziata, c'è stata una rivoluzione industriale per lo mezzo, c'è uno Stato che si è potenziato in tutte le sue strutture burocratiche. La Chiesa che può fare a questo punto? Può detenere i possessi ancora una volta, può rientrarne in possesso per farsene che cosa? Può di nuovo darle accenso, invito, come faceva una volta, ma nei confronti di chi? Stavolta nei confronti di gente che è infinitamente più agguerrita di prima. Nel 1876, in definitiva, la versione dell'asse ecclesiastico troverà una chiesa che ormai è completamente smembrata, quindi alla chiesa non rimarrà che molto poco, soprattutto nel mezzogiorno attraverso il sistema delle ricettizie che ne condiziona la vita profondamente. Quindi sì, la Chiesa può ritornare in possesso, ma da allora in poi il possesso della Chiesa è quello che abbiamo oggi, cioè poca cosa e con nessuna incidenza. Ecco, questo dobbiamo accettarlo, a patto che contemporaneamente, per ritornare al discorso di Prodi, si abbia presente l'enorme incidenza che però la Chiesa aveva un tempo. Cioè noi non dobbiamo dimenticare che quasi ogni persona, quasi ogni famiglia, o almeno una famiglia su due, aveva dei rapporti economici con la Chiesa. Aveva dei rapporti economici molto precisi. Così come ciascuno di noi, o uno su due di noi, ha dei rapporti economici con una banca o con un altro ente economico, così la Chiesa, ogni persona dell'età moderna, ogni famiglia aveva un rapporto economico con la Chiesa. Fossero dei fitti, fossero dei censi, fossero dei capitali, fosse qualunque altra forma di gestione dei beni economici, dei rapporti con la Chiesa c'era. Quindi la Chiesa era una presenza perenne, viva e direi anche cordiale forse nei confronti dell'umanità. E era una presenza eterna, perenne nella vita di ciascuno, non solo a livello spirituale. Là, in un momento in cui lo Stato non esisteva nessuna struttura collettiva che mettesse insieme gli uomini in una stanza, in una chiesa, ma anche a livello economico, la Chiesa era tutto. E quindi, e solo tenendo presente questo riferimento di enorme importanza della Chiesa nella vita economica, si può capire la grande caduta che la Chiesa ha, insomma, nei confronti della società precedente. Quando noi pensiamo al potere della feudalità, noi lo vediamo di fronte, perché noi vediamo il castello, noi vediamo queste cose, ecco, che visibilmente si sentono, ma la Chiesa aveva dei rapporti capillarmente molto più estesi di quanto non avesse il feudatario. Il feudatario poteva avere un rapporto erga omnes, perché lui era il feudatario e quindi poteva tutto su tutti, ma non aveva dei rapporti con i singoli, proprio tutti i singoli, così come le aveva la Chiesa, la quale era in grado di stringere un rapporto al giorno con mille famiglie attraverso le parrocchie, attraverso le chiese, attraverso le collegiate, attraverso i monaci e così via. E solo avendo presente questa enorme funzione della Chiesa, allora si può capire lo scivolone che la Chiesa prende da 700-800. No, ma si può capire anche perché questo interessa, è un aspetto, insomma. L'altro aspetto è di vedere che cosa può capire anche cosa prende il posto della Chiesa. Certo. Cioè, non è solo un problema di caduta della Chiesa, è un problema di trasformazione, quindi chiaramente di completa ricostituzione di un tessuto su termini nuovi. Sono non solo laici, ma sono anche statali. Certo. È un mondo nuovo che nasce tra 7-8 anni, non c'è niente da fare. Bene, quindi credo che possiamo chiudere qui. Ringraziare i pochi che ci hanno seguito. Pochi ma buoni. Ma non è mai voluto fare questa serie di cose. La capita, volevo chiedere. Per caso ho saputo. Il costo materiale di ricerca. Sì, ho sentito e vorrei capire meglio. Gli anni che lei ha dedicato a questo tipo di studi, al particolarismo del documento e quindi la difficoltà di ricostruzione delle fonti e anche lo sviluppamento delle fonti. No? E poi ho sentito l'altro signore che parlava di calcolatori elettronici per ricostruire le proprietà, le modalità di vendita, di distribuzione. Questo qui in generale viene curato all'interno degli istituti specializzati di storia oppure viene fatto privatamente? Da ciò coordinato dal Centro Nazionale di Ricerche o altre. Oppure il suo lavoro è partito su ipotesi chiaramente individuali e poi l'ha fatto individualmente e quindi si è confrontato con l'esterno. Vuoi rispondere tu? Hai chiesto a me questo parere? In materia di calcolatori elettronici? No, io pensavo. Allora? L'impressione mia è questa. Quando uno mette le mani, per esempio, che entra a Trento, per ricostruire le proprietà fondiarie che verranno poi, solo quelle fondiarie, che verranno poi espropriate e vendute, e quindi servire per circa un progetto 40 anni, dalla data qui l'esproprio che io considero nel 1911, quello napoleonico, no, trascurando, ma mettendo nel conto 10 anni prima, 15 anni prima e poi 15 anni successivi. La raccolta di materiale è immane, no, perché quintali di carta che si deve sfogliare e individuare. Questo qui succede anche ad una persona come lei che ha dedicato tanto tempo, oppure è un lavoro del dilettante, è perché sbaglia le metodologie. Va bene, lei allora mi chiede una cosa. Io purtroppo in questo ho il vizio di, il difetto forse di incoraggiare troppo agevolmente il corso. Io ho cominciato questi studi quando ero un semplice e onesto professore di scuola superiore e l'ho portato avanti e ho concluso questo lavoro quando poi sono entrato nell'università. Solo ora lo sto concludendo perché l'elaborazione dei dati che mi sono risultati allora mi ha portato via molto tempo e ho sottoposto anche questi dati al calcolatore elettronico del centro di calcolo di Salerno, ma anche senza quel centro di calcolo a poco l'avrei fatto io. Cioè adesso io ho utilizzato senza grande utilità e senza grande indispensabilità un calcolatore elettronico. Ai miei tempi ho utilizzato una calcolatrice Olivetti di quelle che facevano la divisione alla storta, però l'ho fatto lo stesso. In definitiva io sono sempre dell'idea, delle convinzioni di San Paolo, omne quod non est ex fide est peccatum. In queste cose bisogna metterci grande fede e grande amore, se no non si fa niente. Si possono avere 10.000 calcolatori elettronici, non serve a niente. E invece il grande entusiasmo che si mette in queste cose. Una volta che ci sia l'entusiasmo e ci sia l'amore, forse uso dei termini che non sono storiograficamente molto eleganti, ma secondo me sono essenzialissimi, questi danno anche la metodologia. Perché la metodologia, certo, si può imparare sui libri, ma si apprende soprattutto nel confronto con le carte. E io, per esempio, ho passato alcuni mesi, ricordo che a sera, a letto, andando, io pensavo come dovevo interpretare queste carte, dato che ogni 5-6 giorni mi trovavo di fronte a una difficoltà nuova. E ogni 2 o 3 mesi mi trovavo di fronte a una difficoltà di tipo tale che mi faceva pensare se avessi mandato avanti bene il discorso fino a quel momento. Quindi alcuni mesi di rodaggio che nessuno le potrà insegnare, perché nessuno conosce a menadito le carte che nessun altro conosce se non lei, e dopo alcune settimane si può andare avanti. Quindi sotto questo aspetto sono ottimista. Non c'è bisogno di essere inseriti in nessun ente nazionale o sovranazionale. L'essenziale è l'entusiasmo. Ecco. L'essenziale è sapere però quali domande porre al documento, che il documento in sé per sé significa molto poco, in definitiva è come un buon pianoforte che a suonare, che ha molta melodia dentro di sé, delle bambolette, ma non è detto che debba suonare da solo. E una volta che si faccia una buona, il metodo deve consistere soprattutto nella chiarezza delle domande da porre ai documenti. è vero, nella prospettiva da dare a questo sistema di domande, ipotizzando alcune risposte. Io dicevo che sono arrivato a delle conclusioni un po' diverse, e adesso che ho guardato invece che 700 fonti, ne ho guardato 28.000, le risposte sono un po' diverse. Ecco, ma in questi anni, e sono 16 per l'esattezza del mio lavoro, durante i quali anni però ho fatto anche altri studi, io sono arrivato ad alcune conclusioni. Quindi, se lei mi dice come, ecco, dispendio di energie, ce n'è del molto, e direi economicamente poco produttivo, perché lei può fare benissimo una poesia, e una poesia dura 5 minuti ed è una pagina, mentre invece, è vero, 5 minuti di estro e sono una paginetta, mentre invece lì c'è il rischio che dopo che lei ha studiato per esempio una settimana, da una settimana di lavoro esce una pagina sola. All'individuazione in queste soppressioni intraviste con un nodo storico e mi sembra che il libro che lei ha intravisto per quanto riguarda la Calabria, a me sembra, aver sentito anche negli ultimi interventi, che effettivamente le soppressioni nel loro insieme, pur localizzate come è stato fatto qui, possono essere considerate un importante nodo storico per una serie di osservazioni di visione generale. Quindi è vero che la carta o il milione di carte magari può incolpire il singolo studioso, però il risultato all'interno di vari confronti successivi è, per me si ancora dopo lo studio che lei ha fatto intravede nelle soppressioni, scusi se le metto fra virgolette, sì, per dire tutto il mondo che lei mi ha fatto intravedere lo spessore che ho intravisto da quanto lei, dopo, da come lo descrive, da come lo spiega. E se questo, dopo questi 16 anni di studio, intravede, questa è di nuovo la domanda, un nodo storico per quanto riguarda la formazione dello Stato moderno in Italia. Sì, ho capito. Cioè, le soppressioni come momento, burocraticamente visuale, come non va un passo di altri, se ritiene un punto interessante. Le direi che a mio disdoro, che ce ne trovo sempre di più elementi e che rimpiango di non avere cominciato con grandi e ambiziosissimi progetti di ricostruzione di una società. Io cominciai molto più modestamente per vedere l'attività, è vero. Oggi mi accorgo delle mille cose che si riverberano in quell'attività espropriatrice. E talché io mi accorgo di quante cose esse siano espressioni, di tutto un mondo che cambia, di infinite trasformazioni che si inducono, e le accolgo ora. Insomma, a me verrebbe adesso il desiderio, finita la Casa Sacra, di scrivere un libro sul periodo della Casa Sacra, su che cosa rappresento. A questo punto non le nascondo che mi sono scocciato della Casa Sacra, dopo 16 anni avrò pure il diritto. Però ecco, me ne vado, mi accomiato dalla Casa Sacra, con il disappunto di non avere studiato il periodo, sembra strano, ma io non ho studiato il periodo, cioè è significante di tante e tali cose, è così pregnante ciascuna di esse, che io dico come sarebbe stato bello studiare il periodo senza studiare la Cassa Sacra. Gli è che però io ho capito meglio il periodo studiando la Cassa, e non ci sarei arrivato. Adesso lo guardo col senno del poi, ma effettivamente questo studio, gli studi molto in profondità, come per esempio altri studi sul clima o sulla demografia che io ho fatto e poi ho lasciato lì, portano sempre il discorso a approfondire l'indagine, a dare una prospettiva nel lungo periodo. E ponendo la Cassa Sacra nel lungo periodo, cioè in queste trasformazioni che portano e la Chiesa e la borghesia e i contadini a mantenere alcune permanenze del periodo passato, ma ad acquisire anche delle innovazioni e delle trasformazioni al loro interno, uno si accorge che la Casa Sacra è un momento essenziale, ma non è tutto. E allora forse nasce il rimpianto di non aver guardato il tutto, ma a queste ambizioni devono mirare gli storici più grandi. E io ho cercato di fare un piccolo settore. E lei forse mi pone queste domande per vedere se può essere incoraggiato in ricerca del genere. Io la incoraggerei senz'altro, perché sono cose veramente, cioè in ciascuno di quegli atti, in ciascuna di quelle carte, in ciascuna di quelle denunzie, lei a guardarle con gli occhi della persona colta, lei vede baluginare la luce di quel momento. detto, no? Che seppure, come il solito, no? Arriva dopo 8 minuti prima, seppure più immediatamente possibile, magari nel più riposto paesino del Trentino c'è una lettera anonima oppure una protesta per come è stato venduto un determinato bene, e beh, anche lì è possibile scorgere questo dialettico rapporto tra delle mentalità che ancora si rimettano. È vero, si coltivano, ma c'è molto spesso anche qualcosa di nuovo che viene e tra le righe di un atto notarile, tra le righe di un ricorso, esce fuori quello che di nuovo c'era, che in genere poteva essere suggerito dal massone del luogo, dal giacobino del luogo, dal liberale del luogo, e che prende poi corpo in una lettera anonima o in un esposto. In definitiva la vita economico-sociale del tempo era ben diversa dalla nostra, ma non è detto che il tentativo degli uomini di adattarsi ai tempi e ai modi della società fosse molto diverso dal nostro. Sempre questo tentativo di rendersi atti alle cose, gli uomini lo hanno avuto e lei lo troverà benissimo nei documenti che potrà studiare. Questa è la mia convinzione. No, vorrei aggiungere solo una cosa, che probabilmente c'è un problema di spreco, cioè di spreco, non tanto di spreco di energie individuali, ma proprio di spreco di fiducia individuali, quando appunto il lavoro si fa solo individualmente. Ah, ecco. La necessità grande che secondo me c'è per quando si fanno questi lavori, insomma, che sono lavori non solo di tipo quantitativo, ma anche di tipo interpretativo, eccetera, la necessità grande che si sente è quella di poter far capo, ecco, non tanto appunto alle ricerche o appunto agenzie nazionali e internazionali, ma a gruppi che in un modo o nell'altro consentano lo scambio, la circolazione delle idee, la verifica delle ipotesi, e che offrono contemporaneamente anche strumenti, no? Di indagine centrati, accorpati. Un esperto. Un esperto che ci si è già vissuto dentro. Quindi in questo senso io sì, mi sentirei di interpretare il desiderio di provare il segretario di questo istituto. Nel senso di dire, qui in fondo dobbiamo prendere 20.000 volumi, abbiamo dei tavoli, delle matite, delle cose con cui si può scrivere, e quindi è un posto dove si può venire a lavorare e forse ricevere appunto qualcuno di questi ausili, no? Esterni di cui il ricercatore individuale ha sommo bisogno, insomma. Questo qui, mi permetterei di aggiungere una sola cosa, che senza quello che dice Schiera c'è il pericolo che la ricerca rimanga provinciale. Cioè che ci sia molto materiale dentro, ma non ci sia l'obiettivo verso il quale. Cioè quel discorso di Schiera è essenzialissimo. Ecco perché io dicevo, di sera a letto, leggendo i libri che altri maestri hanno scritto su queste cose per capire come interrogare il documento, che se no veramente si riduce a un'elencazione, allora all'avvenimenziale dei fatti politici sostituiamo l'avvenimenziale dei fatti economici senza nessuna risultanza significante per lo sviluppo degli studi. C'è la vecchia erudizione, un'altra erudizione. Un'altra, c'è ancora più a cascata, quindi perché non ha nemmeno gli uomini davanti. C'è. Era un'informazione che pensavo di dire a qualcuno dell'università di qua e dopo invece era quella verso che ci facciamo anche più presto. Se qui all'interno dell'università, all'Istituto di Storia, c'è qualcuno che sta studiando questi problemi delle soppressioni a livello locale, cioè negli archivi di qua e poi eventualmente anche con riferimento agli archivi di Milano, ma proprio a livello informativo, era un discorso che mi interessava come confronto. No, quello che ne so io no. No, si possono però provocare sempre, direi, di appunto dei confronti. Cioè, noi a livello di università, che non è questa sede qui, perché questa sede non è una sede universitaria, ma non c'entra con l'università, anche se molto di noi sono qui e all'università. A livello di università, cioè della facoltà di sociologia, dei gruppi di teoria sociale, di agrosociologia, noi stiamo un gruppo, insomma una decina di persone stanno mettendo a punto un programma di ricerca di storia regionale diversificato in una decina di progetti più o meno individuali che coprono i problemi della storia del Trentino più o meno per quanto riguarda il 700 e l'800 su alcuni aspetti di storia economica e di storia, diciamo, delle istituzioni. E io ho a disposizione, non qui però, questi progettini che sono però ancora in una fase molto iniziale perché li abbiamo messi a punto solo alla fine dell'anno scorso, del 76. Quindi questa è un'attività che noi stiamo iniziando, su cui abbiamo deciso di puntare per i prossimi anni. Quindi in quel arco lì sicuramente anche delle ricerche sulla soppressione sarebbe addirittura centrale, insomma, cioè sarebbe importantissimo inserirla. Però nessuno di noi si occupa di più, cioè di altri aspetti. Però possono essere trovate delle competenze settoriali, per esempio sulla storia grande da una parte, sulla storia della Chiesa dall'altra, eccetera, in modo che collettivamente in affronti di cui diceva la carica si possa fare lo stesso. Competenze ci sono, se non c'è nessuno. Se la fanno loro, a poco diventano loro i competenti. Di laurea, eccetera, non sono poi tutti, insomma, non è che il professore o che lui. Lo Stato ci paga per quel poco che sappiamo, se dovesse pagarci per quello che non sappiamo non avrebbe erari sufficienti. E poi se la fa lei l'esperienza, io posso contribuire, credo che anche lì, mandando all'istituto i libri che io ho scritto su questo argomento, e lei vedrà come in un contesto sociale ben diverso sono state affrontate e risolte questi problemi, come ho usato un particolare metodo mio e come lui usa un particolare metodo suo. Poi lei incomincerà imbattersi in queste carte locali, sulle prime non capirà niente, il secondo giorno capirà molto. C'è comunque una fonte che io privilegierei sempre in qualunque archivio del mondo, che è quasi sempre la stessa in qualunque archivio, e sono gli atti dei notai, che andrebbero bene schedati, che sono una miniera. Purtroppo sono anche chilometri, sì, lo fa tu. Però sono veramente la cosa più... Cioè, veramente noi sia come Istituto Storico della Germania che come tu in facoltà, davvero non so se con queste cose non saremmo particolarmente bisognosi di noi stessi, insomma, di avere delle sollecitazioni di questo tipo, perché sono perfettamente complementari al tipo di lavoro che diciamo. Poi per quel che riguarda Trento, per dire che esiste anche la società di trentini che fa i lavori suoi, insomma, è uno strumento. Però c'è tutto un altro campo, insomma, probabilmente potrebbe dare anche lì sopra, che è una storia locale, porto a livello